San Francesco, il poverello di Assisi. Prima puntata. L'origine di un santo. Di Paolo Brunatto. Dobbiamo ritirarci per un certo periodo di meditazione, di digiuno e di preghiera sul Monte Laverna, che è un luogo impervio e solitario. Lassù abeti, faggi e frassini svettano sublimi in continua lotta con venti e tempeste. E così, ai primi di agosto del 1224, un gruppetto di frati minori guidato da Masseo e composto da Francesco, Leone, Angelo, Rufino, Silvestro e Egidio si avviò verso quell'aspra località di montagna. Era del resto abitudine di San Francesco ritirarsi, come Gesù, in luoghi solitari e romitori per meditare ed essere in unione intima con il Signore attraverso la preghiera. Laverna era uno di questi e certamente era quello che il santo prediligeva. Già all'epoca di Francesco era un monte selvaggio, un crudo sasso, come direbbe Dante Alighieri, che si innalzava verso il cielo nella valle del Casentino. Voglio essere lasciato completamente solo. Il solo contatto con il mondo lo avrò attraverso Frate Leone, che verrà a trovarmi alla fine di ogni giornata. Leone raccontò agli altri frati di aver visto Francesco piangere, pregare e singhiozzare. E come riferisce San Bonaventura? Di notte, mentre pregava con le braccia stese in forma di croce, fu visto sollevato da terra con tutto il corpo e avvolto in un'aura di luce risplendente. E per questa ragione Francesco, che si sentiva spiato, un giorno disse a Frate Leone: «Ah, Leone, Leone, se tu sapessi quante tribolazioni mi infliggono i demoni quando parlo con Dio, non mi porteresti anche i demoni del tuo mondo. Lasciami solo col mio Signore. Chi sei tu, mio Dio? E chi sono io? Chi va là?» Sono io, padre, Leone, la tua pecorella. Non ti avevo chiesto di non disturbarmi? Non ti sei accorto che stavo pregando? Perdonatemi, padre. Il Signore mi ha avvertito che su questa montagna ci sarà presto un evento inaudito. Ti chiedo per santa obbedienza di venire domani per accompagnarmi alla cappella dell'Eremo, dove dobbiamo procedere alla triplice apertura del Vangelo. Si trattava di aprire a caso per tre volte il Vangelo. Per tre volte si presentò un brano che narrava la passione di Cristo. E di nuovo Francesco chiese a Frate Leone di essere lasciato solo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazioni. È il 17 settembre 1224. Francesco sta pregando sul Monte dell'Averna, dove trascorre nel silenzio e nella solitudine 40 giorni di digiuno in onore dell'Arcangelo San Michele. Il monte era stato proprietà del conte Orlando da Chiusi di Casentino, il quale, nutrendo una grande venerazione per Francesco, glielo aveva donato. Qui i frati del poverello avevano costruito una piccola capanna. In quel luogo avvenne l'evento prodigioso, mentre Francesco era intento a pregare e a meditare, come mosso da una divina ispirazione sulla passione di Gesù. Oh Signore mio Gesù Cristo, due grazie ti prego che tu mi faccia, innanzi che io muoia. La prima, che in vita mia io senta nell'anima, nel corpo mio, a quanto è possibile, quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nell'ora della tua acerbissima passione. La seconda, sia che io senta nel cuore mio, quanto è possibile, quello eccessivo amore del quale tu, figliuolo di Dio, eri acceso a sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori. Le agiografie raccontano che la preghiera di Francesco non rimase inascoltata e che ricevette così sul proprio corpo i segni visibili della passione di Cristo. Il prodigio avvenne in maniera così mirabile che i pastori e gli abitanti dei dintorni riferirono ai frati di aver visto per circa un'ora il monte dell'Averna incendiato di un vivo fulgore, tanto da temere un incendio o che si fosse levato il sole prima del solito. Scrive Bonaventura da Bagnoregio. Un mattino, all'appressarsi della festa dell'esaltazione della Santa Croce, mentre pregava sul fianco del monte, vide la figura di un serafino, con sei ali tanto luminose quanto infuocate, discendere dalla sublimità dei cieli. Esso, con rapidissimo volo, tenendosi librato nell'aria, giunse vicino all'uomo di Dio, e allora apparve tra le sue ali l'effigie di un uomo crocifisso che aveva mani e piedi stesi e confitti sulla croce. Due ali si alzavano sopra il suo capo, due si stendevano a volare e due velavano tutto il corpo. A quella vista si stupì fortemente, mentre gioia e tristezza gli inondavano il cuore. Provava letizia per l'atteggiamento gentile con il quale si vedeva guardato da Cristo sotto la figura del serafino, ma il vederlo confitto in croce gli trapassava l'anima con la spada dolorosa della compassione. Fissava pieno di stupore quella visione così misteriosa, conscio che l'infermità della passione non poteva assolutamente coesistere con la natura spirituale ed immortale del serafino. Ma da qui comprese finalmente per divina rivelazione lo scopo per cui la divina provvidenza aveva mostrato al suo sguardo quella visione, cioè quello di fargli conoscere anticipatamente che lui, l'amico di Cristo, stava per essere trasformato tutto nel ritratto visibile di Cristo Gesù crocifisso, non mediante il martirio della carne, ma mediante l'incendio dello spirito. È Gesù stesso, nella sua apparizione, a chiarire a Francesco il senso di tale prodigio. Io ti ho donato le stimmate che sono i segnali della mia passione, a ciò che tu sia il mio gonfaloniere. E siccome io, il dì della morte mia, discesi al limbo, e tutte l'anime che io vi trovai ne trassi in virtù di queste mie stimmate, e così a te concedo che ogni anno, il dì della morte tua, tu vadi al purgatorio e tutte l'anime dei tuoi tre ordini, cioè minori, suore e continenti, ed Ezian Dio degli altri, i quali saranno gli stati a te molto divoti, i quali tu troverai, tu te le tragga in virtù delle tue stimmate, e menile alla gloria di paradiso, a ciò che tu sia a me conforme nella morte, come tu sei nella vita. Thank you. scrive ancora San Bonaventura che la visione lasciò nel cuore del santo un ardore mirabile e segni altrettanto meravigliosi lasciò impressi nella sua carne. Subito, infatti, nelle sue mani e nei suoi piedi incominciarono ad apparire segni di chiodi come quelli che poco prima aveva osservato nell'immagine dell'uomo crocifisso. Le mani e i piedi, proprio al centro, si vedevano confitte ai chiodi. Le capocchie dei chiodi sporgevano nella parte interna delle mani e nella parte superiore dei piedi, mentre le punte sporgevano dalla parte opposta. Le capocchie nelle mani e nei piedi erano rotonde e nere. Le punte, invece, erano allungate, piegate all'indietro e come ribattute, ed uscivano dalla carne stessa, sporgendo sul resto della carne. Il fianco destro era come trapassato da una lancia e coperto da una cicatrice rossa che spesso emanava sacro sangue. Tommaso da Celano, che conosceva certamente la versione di frate Leone, descrive il miracolo con crudo realismo. Continuava a rimuginare con ansia cosa potesse voler dire la visione, e il suo spirito era terribilmente teso a cercare di cogliere il significato, poiché ragionando non arrivava a nessuna interpretazione sicura, e si sentiva pervaso e moltissimo agitato nel cuore dalla novità di quella visione. Cominciarono ad apparire nelle mani e nei piedi i segni dei chiodi come poco prima aveva visto nell'uomo crocifisso sopra di sé. Le sue mani e i suoi piedi sembravano trafitti nel centro da chiodi. Nella parte interna delle mani e su quella superiore dei piedi si vedeva la testa dei chiodi e dalla parte opposta la punta. Quei segni erano rotondi dalla parte interna delle mani e allungati nella parte opposta e formavano quasi un'escrescenza carnosa e rilevata, come fosse la punta dei chiodi ripiegata e ribattuta. Ugualmente nei piedi erano impressi i segni dei chiodi sporgenti sul resto della carne. Anche il lato destro, quasi fosse stato trafitto da una lancia, mostrava un'ampia cicatrice che spesso emetteva sangue. Era meraviglioso scorgere al centro delle mani e dei piedi non i fori dei chiodi, ma i chiodi medesimi formati di carne dal color del ferro e il costato imporporato dal sangue. Per la prima volta, con San Francesco, si verifica il fenomeno delle stigmate, una sorta di immedesimazione totale nella passione di Cristo. Tanto era stato aderente alla vita di Cristo da identificarsi con Lui nel miracolo più clamoroso. Ma vi furono alcuni che non credettero a questi segni impressi sulla viva carne di Francesco, e anche alcuni storici avanzarono dubbi sulla realtà di questo evento. Dal momento che fu impedito ai fedeli di vedere il corpo di San Francesco subito dopo la sua morte, non si poterono constatare le stigmate. E i dipinti dell'epoca furono l'unica attestazione di questo fenomeno. L'episodio fu magistralmente rievocato da Giotto negli affreschi della Basilica Superiore del Santo in Assisi, dove Francesco tiene come un aquilone e Nostro Signore gli imprime le stigmate. Tutto questo a scapito di una raffigurazione che voleva qualcosa di veritiero, di reale nella rappresentazione. E San Bonaventura, nel capitolo della sua Legenda Maior, dedicato alla potenza miracolosa delle stimmate del poverello, scriveva: Papa Gregorio IX, di felice memoria, al quale il santo aveva profetizzato l'elezione alla cattedra di Pietro, nutriva in cuore, prima di canonizzare l'alfiere della croce, dei dubbi sulla ferita del costato. Ebbene, una notte, come lo stesso glorioso presule raccontava tra le lacrime, gli apparve in sogno il beato Francesco, che con volto piuttosto severo lo rimproverò per quelle esitazioni e, alzando bene il braccio destro, scoprì la ferita e gli chiese una fiala per raccogliere il sangue zampillante che fluiva dal costato. Il sommo pontefice, in visione, porse la fiala richiesta e la vide riempirsi fino all'orlo di sangue vivo. Da allora egli si infiammò di grandissima devozione e ferventissimo zelo per quel sacro miracolo, al punto da non riuscire a sopportare che qualcuno osasse, nella sua superbia e presunzione, misconoscere la realtà di quei segni fulgentissimi senza rimproverarlo duramente. La Chiesa, comunque, dopo maturo giudizio, con ben 9 bolle pontificie di Gregorio IX, di Alessandro IV e di Niccolò III, susseguitesi tra il 1237 e il 1291, difese la realtà delle stigmate di Francesco, senza peraltro esprimere un'interpretazione definitiva del fenomeno, la cui genesi è soprannaturale e deriva dall'amore. La Chiesa infine riconobbe la straordinarietà del fenomeno verificatosi nel 1224, inteso quale segno privilegiato concesso da Cristo al suo umile servo di Assisi anche da un punto di vista liturgico, inserendo la ricorrenza nel calendario. Papa Benedetto XI Boccasini da Treviso, infatti, concesse all'ordine francescano e all'intero orbe cattolico di celebrarne annualmente il ricordo il 17 settembre. Il francescanesimo si inserisce in quel vasto movimento pauperistico del XIII secolo, in uno spirito di riforma volto contro la corruzione dei costumi degli ecclesiastici del tempo, troppo coinvolti negli interessi materiali e politici, nella sanguinosa lotta alle investiture. Il pauperismo era intriso di ideali di povertà di particolari comunità cristiane come gli ordini mendicanti. Secondo la regola dettata da Francesco, la vita comunitaria deve cercare di conformarsi a certi principi. I frati non dovranno vivere soli, ma dovranno prendersi cura dei propri fratelli e in generale di tutti, con amore e dedizione. La stessa cura si estenderà incondizionatamente non solo alle creature umane, ma a tutto il creato, in quanto opera di Dio e dunque sacro, vivendo in questo modo la fraternità universale. Questa è la virtù della fratellanza. Per quanto riguarda l'umiltà, dovremo porci al di sotto di tutto e di tutti, al servizio dell'ultimo per essere davvero al servizio di Dio. Liberarsi dai desideri terreni che allontanano l'uomo dal bene e dalla giustizia. E a proposito della diletta sorella povertà, dovremo rinunciare a possedere qualsiasi bene, condividendo tutto ciò che ci è dato con tutti i nostri fratelli, partendo dai più bisognosi. A questo proposito è significativo l'episodio narrato da Tommaso da Celano nella sua vita di San Francesco. Ma già egli è divenuto straordinariamente amante dei poveri, già il buon inizio prelude alla futura perfezione. Spesso si sveste per rivestire i poveri, ai quali si sforza di farsi simile, non ancora di fatto, ma già con tutto il cuore. Perciò una volta, andato a Roma in pellegrinaggio, per amor di povertà depose le vesti eleganti e, coperto dei cenci di un povero, si sedette nel vestibolo davanti alla chiesa di San Pietro, tra i mendicanti di cui quel luogo abbonda, reputandosi come uno di essi, e mangiò con loro avidamente. Poi, avvicinatosi all'altare del principe degli apostoli: «Non siate avari, Mi meravigliano le vostre tenue offerte. Ma che fa quel pazzo? Sta gettando denari a piene mani sull'altare. Lo faccio per indicare che tutti dovrebbero onorare in modo speciale colui che è stato sopra gli altri onorato da Dio. A San Francesco interessavano soprattutto le classi sociali più deboli e tendeva con amore fraterno verso quel prossimo spesso respinto e disprezzato dalla società, cioè verso il povero, il malato, il perdente, l'ultimo. Voglio essere il minore tra i minori. Voglio che voi, i miei compagni, vi chiamate minores, che è un appellativo dato in spregio ai popolani dei ricchi. Io voglio essere uomo del popolo. Questa è la mia ambizione. Lo spirito di condivisione sarà esempio concreto della comunione dell'anima con Dio. A imitazione dei poveri e dei mendicanti, faremo nostro questo aspetto itinerante, secondo il principio di portare il nostro sostegno materiale e spirituale al prossimo, andandogli incontro laddove egli si trovi. Così vagheremo incessantemente, portandoci fino ai confini dell'Europa, sostentandoci del frutto delle elemosine che ci verranno offerte per strada. Accettare elemosine sarà parte della nostra santa regola. San Francesco amava, rispettava e proteggeva la natura. Rispettate la natura. Vivete per il prossimo, aiutate i poveri. Amate la natura come il sole, la luna, il vento, la terra e tutte le cose belle, ma anche la morte corporale come una sorella, e sappiate che i buoni non avranno da preoccuparsi. Per me tutti sono uguali, non come in città dove esistono le grandi differenze sociali. Voglio che la Chiesa si riformi e che non si faccia sedurre dalle ricchezze. Fratelli, dovremmo essere esempio per i ricchi, che pensano solo a se stessi, mentre i poveri e gli oppressi vengono scacciati. San Francesco, il poverello di Assisi. Seconda puntata. L'infanzia e la guerra. Di Paolo Brunatto. Francesco nacque nel 1181 da Pietro Bernardone dei Moriconi e dalla nobile Pica Bourlemont, in una famiglia della borghesia emergente della città di Assisi. Il padre, Pietro, grazie all'attività di commercio in Provenza, aveva raggiunto ricchezza e benessere. Numerosi reperti archeologici indicano che Assisi ebbe origine da un piccolo villaggio abitato dagli Umbri già nel periodo villanoviano, tra il IX e l'VIII secolo avanti Cristo. Gli Umbri furono un popolo che si ritiene giunto in Italia nel secondo millennio avanti Cristo e che si sovrappose a quelli già presenti. In Umbria la presenza dell'uomo è attestata sin dal primo paleolitico. Parlavano una lingua indoeuropea, l'umbro, scritta con alfabeto proprio di derivazione greco-occidentale, non molto dissimile dagli altri alfabeti italici. Descrivendo l'origine dei popoli umbri, Plinio il Vecchio afferma: la popolazione umbra è ritenuta la più antica d'Italia. Si crede infatti che gli umbri fossero stati chiamati ombrici dai greci, perché sarebbero sopravvissuti alle piogge quando la terra fu inondata. È attestato che gli Etruschi sottomisero 300 città umbre. Questa descrizione, che poteva apparire fino a qualche tempo fa anche fantasiosa, viene oggi considerata credibile e valida da varie teorie e ipotesi storiche, supportate anche dalla ricerca archeologica. La madre di Francesco lo fece battezzare col nome di Giovanni. Lo chiameremo Giovanni, come l'apostolo, e lo battezzeremo nella chiesa costruita in onore del patrono della città, il martire Rufino. Scrive Tommaso da Celano: dalla madre sua fu chiamato Giovanni, allorché rinascendo per virtù dell'acqua battesimale e dello Spirito Santo, da figlio dell'ira divenne figlio della grazia. Quella donna, amica della più alta onestà, portava nei costumi quasi il segno visibile della sua virtù, avendo avuto il privilegio di una certa somiglianza con l'antica Santa Elisabetta, tanto per il nome imposto al figliuolo, quanto per il dono dello spirito profetico. Infatti, quando parlava con le vicine, essa quasi per suggerimento di un oracolo divino, così diceva: che cosa credete voi che diventerà mio figlio? Vedrete che per i suoi meriti diverrà un figlio di Dio. Mentre il padre, Pietro Bernardone, aveva su suo figlio idee molto diverse da quelle di Picaburlemont. Voleva che ereditasse le sue idee, la sua passione per il commercio. Donna, ho deciso di chiamare nostro figlio Francesco. E perché? Io l'avevo battezzato con il nome di Giovanni, come l'apostolo. Lo chiameremo invece Francesco, anche se è un nome insolito, in onore della Francia che ha fatto la mia fortuna grazie al commercio di stoffe. Non ti capisco. Non sarebbe meglio continuare a chiamarlo Giovanni in onore dell'apostolo? Per te sembrano contare di più i tuoi affari di compravendita di stoffe che le cose dello spirito. Ci sono altri valori nella vita, oltre ai denari. Ma che dici, donna? Gli affari hanno il giusto posto nella mia vita. Vendere stoffe è un'attività degna di rispetto. Saperle scegliere poi ed esporle nel modo più consono è un'arte. Occorre sensibilità, buon gusto, occhio. Io, ad ogni modo, tutte le domeniche vado alla Santa Messa, osservo le feste religiose e rispetto i sacramenti. Sono un bravo cristiano, io. Nella casa dei genitori di Francesco, situata al centro della città, c'era un grande fondaco utilizzato come negozio e magazzino per lo stoccaggio e l'esposizione di quelle stoffe che il mercante si procurava con i suoi frequenti viaggi in Provenza. Questo fondaco, per Bernardone, era il cuore pulsante della casa, un vero tempio mercantile. Pietro vendeva la sua pregiata merce in tutto il territorio del Ducato di Spoleto, che comprendeva all'epoca anche la città di Assisi. Attualmente, in corrispondenza dell'abitazione dei Bernardone, sorge la chiesa nuova, costruita nel 1615 a spese del re Filippo III di Spagna. Le varie agiografie del santo non parlano molto della sua infanzia e della sua giovinezza, ma è presumibile che egli fosse stato indirizzato dal padre a prendere il suo posto negli affari della famiglia. Figlio, oltre ad andare a scuola, anche se mi sembra che ne hai poca voglia, tu dovrai continuare a fare il mio mestiere. Io ti insegnerò i segreti della mia professione di mercante. Vedrai, avrai delle grandi soddisfazioni. Riuscirò, spero, a trasmetterti tutta la mia passione. Potrai fare pratica sotto la mia guida dopo la scuola presso i canonici della cattedrale, dopo le lezioni che seguirai nella chiesa di San Giorgio. A partire dal 1257, sulla vecchia chiesa di San Giorgio, venne costruita l'attuale basilica di Santa Chiara. Francesco, da domani tu vai a scuola. Dovrai almeno saper fare di conto per poterti occupare degli affari di bottega. Va bene, padre. Farò come vuoi. Subito dopo le feste pasquali, i chierici di San Giorgio vi daranno lezioni nell'atrio della chiesa. Sarà un corso unico al quale parteciperanno solo i rampolli delle famiglie bene di Assisi. Dovrete imparare a memoria la raccolta di salmi in latino del Salterio. Ma il piccolo e futuro santo non era uno studente modello. E così il padre lo mandò a lezioni private presso un canonico di San Rufino di nome Guido, perché almeno gli inculcasse qualche fondamento di matematica, di latino e di scrittura. I risultati di queste lezioni private che ti impartisce il canonico Guido sono abbastanza deludenti. Scrivi peggio di una gallina e di studiare non ne vuoi proprio sapere. Sei troppo pigro, figlio mio. Ma papà, Don Guido mi sgrida sempre e mi picchia. Sei troppo svagato, figlio mio. Lo vedo, sai come ti distrai invece di fare i compiti. È sempre con la testa per aria. Non si applica. È un bambino. Cerca di capirlo. Non sta attento quando gli parlo. Non mi ascolta. Ha sempre la testa da qualche parte. Non può star seduto a lungo su una sedia. Muove continuamente le mani e i piedi. Gioca con i più piccoli di lui alla processione. E mostra interesse solo per gli uccelli e in particolare per i passeri e le allodole. Ma questo, marito mio, a me sembra una qualità più che un demerito. Babbo, gli uccellini sono piccolini. Sono bellini. Dice Tommaso da Celano. Avanzando nella adolescenza, per la sua urbanità, sembrava a tutti che non provenisse dalla stirpe di quelli che erano i suoi genitori. A 14 anni, Francesco si dedicò a pieno titolo all'attività del commercio, come aveva voluto suo padre. Ma quando usciva per strada e il mondo e l'agorà lo attendevano e lo spintonava un amico frettoloso o un mendicante gli chiedeva l'elemosina: dove vai, Franceschino, così lemme lemme? Fammi l'elemosina, bel giovane, ho fame. Francesco comincia a trascorrere le sue nottate tra le liete brigate edonistiche dei suoi amici aristocratici assisani, alternandole alla cura degli affari paterni. Ma le sue assenze da casa si moltiplicano e si dilatano nel tempo. Torna spesso a casa stradunato e astratto, che oramai è buio avanzato. Donna, che devo fare? Si alza sempre più tardi al mattino. Fa né più né meno quello che tu facevi alla sua età. Tu lo proteggi troppo, moglie, e gliele dai tutte vinte. Questa è la verità. Così non si educa un giovane. Devo ammettere che è troppo attaccato ai suoi amici. E non mi piace quando, trovandosi a tavola con noi, se un compagno giù in strada lo chiama, si alza e fugge di casa senza aver finito di mangiare per raggiungerlo. Vedi? Allora che ho ragione io. Scrive ancora Tommaso da Celano. Visse fin dall'infanzia, perdendo e consumando miseramente il tempo, fin quasi al suo 25esimo anno. Anzi, progredito in questa sua vanità più di tutti i suoi coetanei, si è fatto grande incitatore al male ed emulo di stoltezza. Era per tutti oggetto di meraviglia, e in pompa di vanagloria si sforzava di andare innanzi a tutti nei giochi, nelle raffinatezze, nei bei motti, nei canti, nelle lussuose e fluenti vesti, poiché era molto ricco. Né era avaro, ma prodigo, non avido di accumular denari, ma dissipatore, cauto mercante, ma per vanità munificentissimo. D'altronde era molto cortese, arrendevole ed affabile, purtroppo al suo danno. Infatti molti gli facevano corteggio appunto per questo, cattivi istigatori. E così, circondato da schiere di iniqui, incedeva altero e generoso, camminando per le piazze di Babilonia. Francesco, tu sei il migliore. E il più ben vestito. Dove mangiamo stasera? E dove andiamo a bere? C'è una taverna dove dopo la mezzanotte ci si può appartare con ragazze che per pochi denari. Tu lo sai? Le ragazze non so niente, ma non preoccupatevi per chi pagherà il cibo e il vino. Bravo, Francesco, bravo! Sei il nostro re! Sveglia, fannullone, sei tornato all'alba. Ma ora ti tocca lavorare. Oggi è in arrivo dalla Francia una partita di stoffe. Devi essere sveglio se vuoi fare questo mestiere, che è anche un'arte. Ecco i conti delle stoffe che abbiamo ricevuto. Questo è quello che ho dovuto pagare. Ma che cosa combini? Che cavolo di conti hai fatto? Non possiedi il senso del denaro. Tu non riuscirai mai a capire la differenza tra entrate e uscite. Nel vedere questo adolescente distratto, spensierato e gaudente, nessuno avrebbe potuto immaginare il mistico che covava in lui. A quell'epoca ci fu una guerra che contrappose Assisi a Perugia. Tra le due città esisteva una rivalità irriducibile che si protrasse per secoli. L'odio aumentò con il fatto che Perugia si schierò con i Guelfi, mentre Assisi parteggiò per la fazione ghibellina. Ho deciso di andare in guerra. Lo sento come un dovere. Figlio mio, sono tanto in pena per te. Non piangere, donna. Gli farà del bene andare in guerra. Forse così crescerà, diventerà finalmente adulto. Non fu una scelta felice quella degli assisani, in quanto parteggiare per i ghibellini nel 1202 fece sì che subissero una cocente sconfitta a Colle Strada, vicino a Perugia. Il castello di Colle della Strada venne sottomesso a Perugia. Lo stesso anno vi si svolse la battaglia tra le truppe di Assisi e quelle di Perugia, durante la quale Giovanni di Pietro Bernardone, il futuro San Francesco, fu fatto prigioniero. Il tuo nome? Giovanni di Piero Bernardone, detto anche Francesco. Mettiti in fila con gli altri. Da ora sei nostro prigioniero, l'hai capito? Con noi non si scherza. Il prigioniero Francesco, durante quel periodo difficile, ebbe modo di fare le prime riflessioni mistiche ed ebbe le prime intuizioni spirituali. Si può dire che Francesco è baciato dalla grazia. Lo Spirito Santo gli parla attraverso gli avvenimenti e le vicissitudini che si trova a vivere. Durante la sua prigionia, Francesco si ammala e in un certo senso la sua vita cambia. Serve anche questo per consegnarlo alla santità, per far operare la grazia. Forse a Francesco serviva questa prova. Per l'approfondimento spirituale, forse aveva bisogno della prigionia. Francesco, che con gli altri giovanissimi era andato in guerra, fu catturato e rinchiuso in carcere. E questa esperienza lo sconvolse a tal punto da indurlo a un totale ripensamento della sua vita. Così Tommaso da Celano descrive questo periodo cruciale dell'esistenza del giovane di Assisi. Difatti, essendosi combattuta una rovinosa battaglia nella guerra tra i Perugini e gli Assisani, Francesco, fatto prigioniero con molti altri, ebbe a soffrire le angustie del carcere. I suoi compagni, sopraffatti dalla tristezza, si lamentano della disgrazia della prigionia. Invece Francesco esulta nel Signore e si ride delle catene. Noi non ti capiamo. Tu anche qui, in queste carceri umide, sei sempre lieto. O sei stolto o sei pazzo. Di che cosa credete voi che io mi rallegri? Un altro mio pensiero. In questi giorni drammatici ho capito tante cose. Anche che la violenza non porta da nessuna parte e che la cella di una prigione non è un luogo tanto male. Se non ci opponevamo ai Guelfi, quelli ci avrebbero massacrati. Forse è meglio essere massacrati che massacrare il prossimo. Scusa, ma noi siamo venuti in guerra per essere massacrati o per vincerla questa battaglia? Hai ragione, facevo così per dire. Questa guerra mi ha fatto riflettere molto sul senso di questa vita. Fu dunque in questo periodo che iniziò il cammino di conversione di Francesco, che col tempo lo portò, come scrisse Tommaso da Celano, a vivere nella gioia di poter custodire Gesù Cristo nell'intimità del cuore. La guerra terminò nel 1203 e Francesco, gravemente malato, dopo un anno di prigionia, ottenne la libertà grazie a un trattato sui prigionieri di guerra che, in caso di malattia... Perché Francesco torni a casa libero, dovremo pagare un riscatto salato. Non c'è prezzo per la libertà di nostro figlio Giovanni. Ma sei testarda. Continui ancora a chiamarlo Giovanni. Tornato a casa, Francesco recuperò gradatamente la salute, trascorrendo molte ore nei possedimenti del padre. Secondo Tommaso da Celano, furono questi luoghi appartati che contribuirono a risvegliare in lui un assoluto e totale amore per la natura, che lui vedeva come opera mirabile di Dio. E a questo proposito, facciamo un salto in avanti e andiamo al 1226, 2 anni prima della morte del santo, periodo nel quale, secondo la leggenda, compose il Cantico delle Creature, Canticus o Laudes Creaturarum, anche noto come Cantico di Frate Sole, uno dei testi più antichi della letteratura italiana. Molto spesso in Francesco si è considerata solo la parte biografica, scritta da terzi e su commissione, e troppo soventemente si sono trascurati gli scritti del santo di Assisi. E il Cantico delle Creature è questo capolavoro della lingua che restituisce innanzitutto la grandezza di Francesco, la sua beatitudine e questo rapporto privilegiato con un Dio d'amore che lo porterà a dare del tu alle creature animate e inanimate. Il cantico è una lode a Dio, divenendo così anche un inno alla vita. È una preghiera permeata da una visione positiva della natura, poiché nel creato è riflessa l'immagine del creatore. Da ciò deriva il senso di fratellanza fra l'uomo e tutto il creato. La creazione diventa così un grandioso mezzo di lode al creatore. Laudato sie, mi Signore, con tutte le tue creature. Laudato sie, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Sui contenuti del messaggio è forse opportuno chiarire che la lista delle creature offerta dal cantico non è una semplice presenza di elementi esistenziali a diretta portata dell'uomo, ma rappresenta, sul modello biblico, il sistema enciclopedico di tutta la realtà cosmica allora concepita, strutturata. Subito troviamo che tutte le creature sono viste in modo positivo e sono chiamate fratello e sorella. Francesco pone l'uomo al loro livello in quanto anch'egli creatura, ma chiamato a una maggiore responsabilità morale perché dotato di libero arbitrio. Francesco quindi passa alla lode per i 4 elementi fondamentali: il vento, l'acqua, il fuoco e la terra. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale n'allumini la notte, et elle bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori e erba. San Francesco, il poverello di Assisi. Terza puntata. La conversione, le stranezze del giovane Francesco e l'ira di suo padre. Di Paolo Brunatto. Francesco, sei il più fantasioso poeta che io abbia mai conosciuto. Perché non mi reciti un poema? Sei il più generoso cavaliere di Assisi. Permettimi di posarti sui capelli questa corona di rose. Oh, nostro re di una notte. E tu, paggio, mettiti in ginocchio e consegna a Francesco lo scettro d'argento. Francesco, seduto a capotavola, vestito sontuosamente, non parla, non tocca cibo né bevanda, rimane estraneo, indifferente, taciturno, assorto in un pensiero lontano, come se una pena occulta lo assillasse, come se fosse proteso verso la sua anima ansiosa. Armiamoci di liuti e mandole e scendiamo in strada. Dov'è Francesco? È sparito. Tutti all'infuori di lui sono ebri e non si sono accorti che pian piano si è staccato da loro e si è allontanato, si è fermato, si è rintanato in un androne, sembra aver perso conoscenza, appare assente, guarda fisso in un punto con gli occhi spalancati, non sente, non vede, non ascolta più nulla, come se fosse caduto in catalessi. Gli si avvicina un amico. Che ti capita, Francesco? Ma Francesco non risponde. Non è più lì. La sua mente se n'è andata altrove. Una dolcezza sconosciuta lo assale, nella quale l'anima è sommersa. La dolcezza di Dio lo ha invaso. Rimane così rapito in quest'estasi celeste per un po' di tempo, finché il richiamo degli amici non lo fa ritornare in sé. Franceschino, perché sei così triste e pensieroso? Hai forse perso la voce? Forse sei innamorato. La tua ragazza ti ha abbandonato. Quale ragazza? Io non ho una ragazza. Mi sono sentito portare fuori dalle sensazioni del mondo. Anche se mi avessero frustato a sangue, non avrei avuto la forza di fare un passo, di alzare una mano. Nessuna fanciulla mi ha abbandonato. Ho capito che dovrò sposare con lei, alla quale in cuor mio ho giurato fedeltà. È così nobile, così saggia, così ricca e così bella, che nessuno di voi ha conosciuto una donna simile. Gli amici di Francesco non possono capire la sua risposta ispirata da Dio. La nobile moglie sognata, la sposa bella, è la Chiesa. Anche se per lo stesso giovane, per ora, questo è solo un presentimento vago e probabilmente non troppo chiaro nella sua coscienza. In questi suoi atti di generosità e di irrequietezza ci sono i segni di una fede non vissuta ancora consapevolmente. Commenta Tommaso da Celano. Lo si vide ritirarsi dal mondo. Se prima smaniava di unirsi agli amici piantando in asso noi genitori a metà pranzo, ora si è fatto improvvisamente casalingo. È cambiato radicalmente. Meglio così. Si dedicherà un po' di più agli affari e starà di più nel fondaco. Finalmente, alla buon'ora. Perché non esci più, Francesco mio? Si rintanò Francesco nella casa paterna e vi rimase per lungo tempo immobile e senza parole. Poi prese di nuovo ad uscire e, come si può leggere in un antico testo, si aggirava per le strade e per le piazze della città cercando l'oggetto del suo amore. Interrogava quelli che stavano sulla via, si informava dai passanti dicendo: «Avete visto l'amata del mio cuore?» Ma quel parlare restava oscuro per loro come se fosse barbaro. Francesco si aggirava per le strade cercando qualcosa che neanche lui sapeva cosa fosse. Se qualche volta rimaneva in casa, assente il padre con sua madre sola, riempiva esageratamente di pani la mensa come per un grande pranzo. «Figlio, ma che stai facendo?» «Apparecchio anche per i poveri, mamma.» «Ma siamo solo noi due.» «Ma se passasse qualcuno a chiedere l'elemosina, bisogna sempre essere pronti ad aiutare il prossimo.» Poi il giovane e futuro santo prese a non aggirarsi più per Assisi e si inoltrò nei sentieri della montagna. Entrò nei boschi di lecci, si arrampicò sulle coste del monte Subasio coperte di odorosi pini, laddove l'occhio non scorge più nulla del mondo degli uomini. Francesco scelse come meta delle sue peregrinazioni una grotta poco distante da Assisi, in una località chiamata Beviglie, e lì cominciò ad abbandonarsi a meditazioni interiori. Quella grotta divenne il suo rifugio segreto. Non voleva che nessuno lo venisse a trovare lassù e pregava incessantemente. «Alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio.» Scrive ancora Tommaso da Celano. Era in preda ad una vivissima agitazione, né poteva darsi pace finché non avesse compiuto quanto aveva divisato. Pensieri di ogni specie si succedevano nella sua mente, turbandolo molto con la sua insistenza. Francesco un giorno confessò a un amico: «Il Signore mi ha assicurato che la donna bellissima che sposerò si chiama Madonna Povertà, o anche Madonna Umiliazione. Più umilierò il mio corpo e le mie carni, più sarò degno di lei e del mio Signore. Voglio spogliarmi di tutto, voglio dare via tutto, diventare il più povero, il più umile fra gli umili. Il suo servo Uguccione, che lo seguiva dappertutto, un giorno disse ai genitori di Francesco: qualunque povero gli domandi l'elemosina, se può gli dà tutti i denari che ha in tasca, e quando non ha denari gli dà fascia e cintura. Non avendo poi anche queste cose, va in qualche luogo segreto e si cava la camicia per regalarla al mendicante. Non intendo più buttare i miei scudi guadagnati con tanta fatica e accettare che mio figlio li regali a chi magari ride di lui. Donna, tu devi fare qualcosa. Lo devi convincere a cambiare rotta. Forse ti ascolterà. Non ascolta neanche me ormai. I suoi folli doni sono insensati, e con la mania di andare in giro a piedi nudi farà sì che tutta Assisi si burli di noi. Questo ragazzo con le sue stranezze sta diventando la mia rovina. A proposito del cambio di vita e della conversione di Francesco, pare che abbia giocato un ruolo il suo crescente e irrefrenabile senso di compassione verso i deboli, i reietti, gli ammalati, gli emarginati. Questa compassione si sarebbe trasformata poi in una vera e propria febbre d'amore verso il prossimo. Nel 1204 provò a partire per la Quarta Crociata. Si trattava di raggiungere a Lecce la corte di Gualtieri III di Brienne e poi muovere con gli altri cavalieri alla volta di Gerusalemme. Partecipare come cavaliere a una crociata era a quel tempo considerato uno dei massimi onori per i cristiani d'Occidente. Ma le cose non andarono come aveva previsto. Tuttavia, giunto a Spoleto, si ammalò nuovamente. Avrebbe raccontato in seguito di essere stato persuaso da due visioni notturne. Ecco come le descrive Tommaso da Celano. Gli appare un magnifico palazzo in cui può vedere vari apparati d'armi e una sposa bellissima. Nel sogno è chiamato per nome Francesco ed è allettato con la promessa di tutti questi beni. Allora egli si dispone ad andare nelle Puglie per intraprendere la carriera militare e fa sontuosi preparativi con la speranza di raggiungere l'onorifico grado di cavaliere. Ed ecco che un'altra notte, mentre dorme, una voce gli parla per la seconda volta nella visione e gli chiede con insistenza dove voglia recarsi. Egli, per risposta, espone il suo proposito di partire per combattere nelle Puglie e la voce gli domanda: chi può giovarti meglio? Il servo o il padrone? Il padrone. Perché dunque cerchi il servo invece del padrone? Che vuoi che io faccia, signore? Torna alla tua terra nativa, perché la tua visione avrà per opera mia uno spirituale compimento. Francesco cambia le armi carnali in spirituali e invece della gloria militare riceve una divina investitura di sovranità. E poiché molti si stupivano della sua strana letizia, diceva che sarebbe diventato un gran principe. Così Francesco diviene più compassionevole verso i poveri, stabilisce anzi di non respingere alcun mendicante che gli domandi la carità per amor di Dio. Cominciò dunque a trasformarsi in un uomo perfetto e completamente diverso da quello di prima. Anche il suo atteggiamento nei confronti delle altre persone mutò radicalmente. Un giorno incontrò un lebbroso e, oltre a dargli l'elemosina, lo abbracciò e lo baciò. Come racconterà lo stesso Francesco, prima di quel giorno non poteva sopportare nemmeno la vista di un lebbroso. Dopo questo episodio scrisse che ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. Ma è nel 1205 che avvenne l'episodio più importante della sua conversione. Mentre pregava nella chiesa di San Damiano, raccontò di avere sentito parlare il crocifisso, che per 3 volte gli disse: Francesco, va e ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina. Ma le stranezze del giovane si fecero ancora più frequenti. La vuoi sapere l'ultima di nostro figlio? Ha fatto incetta di stoffe nel negozio ed è andato a Foligno a venderle. Ha venduto anche il cavallo ed è tornato a casa a piedi, ma non è finita qui. Ha offerto il denaro ricavato al sacerdote di San Damiano perché ripari quella chiesina che per fortuna li ha rifiutati. Moglie, scusami, ma sono furente. Ti capisco, Pietro, ti capisco. Molti ad Assisi sono solidali con te, padrone, che vedi tradite le tue aspettative. Alcuni arrivano a dire che Francesco, per la sua esagerata generosità, dà segni di squilibrio mentale. È sulla bocca di tutti. Sta diventando lo zimbello della città. Sì, hai ragione, Uccione. Io non capisco più mio figlio Francesco. Ogni giorno me ne combina una. Sembra invasato, posseduto da uno strano demone. Lo stesso Tommaso da Celano ricorda come il popolino di Assisi si comportava con Francesco, sbeffeggiandolo. A vederlo, tutti quelli che lo conoscevano, paragonando il suo stato presente con il passato, cominciarono ad insultarlo, chiamandolo stolto e forsennato, e gli scagliavano contro il fango e le pietre della strada. Lo vedevano così diverso dal solito comportamento e estenuato dalla macerazione, e perciò credevano che i suoi atti fossero conseguenza di prostrazione e pazzia. Hai visto crescere mio figlio Francesco. Sai anche come ci siamo prodigati noi genitori per questo figlio che fino a 13 anni si era sempre comportato in modo normale. Ma ora non lo capisco più. Forse è stato indottrinato da questi falsi profeti della riforma che dicono di combattere contro la corruzione dei costumi degli ecclesiastici troppo coinvolti negli interessi materiali e politici della sanguinosa lotta alle investiture. Ci sono tanti ribelli che si aggirano per le nostre contrade. Beh, però non hanno tutti i torti questi riformisti. I nostri preti sono troppo compromessi negli interessi materiali e politici e nella terribile e assurda lotta per le investiture, non ti pare? Secondo me gli ideali libertari di certe comunità cristiane, come per esempio gli ordini mendicanti, influenzano negativamente i nostri giovani. È che i nostri figli sono cresciuti nel benessere e negli agi e si annoiano. Non sanno come riempire le loro giornate. Sanno solo come animare le loro nottate. E anche più le scorribande notturne con i suoi amici lo interessano. È proprio cambiato. Non lo capisco più. Vorrei che si fosse preso un qualche morbo contagioso durante i suoi viaggi. Una qualche malattia che abbia contagiato il suo cervello. A volte fa dei ragionamenti per me incomprensibili. Bernardone, non ci pensare. Bevici su. Ah, sei qui. Giusto in tempo per la cena. Ma dove sei stato fino ad ora? A consigliarmi. O meglio, a sfogarmi con degli amici davanti ad un bicchiere di vino. Donna, io non riesco più a seguire nostro figlio Francesco nelle sue fantasticherie mistiche e strampalate. Proverò a chiuderlo nel magazzino per un po' di tempo. Così non potrà incontrare gente né fare le sue azioni strampalate. E soprattutto non potrà predicare le sue idee folli che danno un'immagine falsa della nostra casata di onesti commercianti. In altre parole, lo vuoi segregare? Lo vuoi nascondere agli occhi della gente? Ti vergogni di lui? Forse se ti rinchiudo, la tua testardaggine si ammorbidirà. D'altra parte sei già stato prigioniero dei Perugini. Non è una novità per te, vero? Così avrò tempo di pregare. Non mi lamento, padre. Dopotutto anche tu sei uno strumento di Dio. Non c'è verso. Ho provato a dissuadere Francesco dalle sue scelte folli e fuori dal tempo. Gli ho anche spiegato pacatamente che lui non può sostituirsi alla provvidenza. Non può pretendere di cambiare il mondo, di rifare la società, di eliminare le differenze tra ricchi e poveri, tra nobili e plebei. Credo che la reclusione lo radicherà ancora di più nelle sue scelte. Si sentirà come una vittima, non solo, ma questa tua decisione lo allontanerà ancora di più da noi, che siamo la sua famiglia. Meglio così. O si allontana lui da noi, o sarò io a farlo interdire. Ora esageri. Dopotutto è nostro figlio. Ti dirò di più. Il suo comportamento mi irrita al punto che ho deciso di denunciarlo ai consoli. I consoli erano magistrati, così denominati secondo l'antico uso romano, che affiancavano i consigli, detti arenghi, parlamenti, assemblee, senati, eccetera, a seconda dei luoghi, nelle amministrazioni dei comuni dell'Italia medievale. Questo suo atteggiamento è anche irrispettoso verso di noi, che abbiamo fatto tanto per assicurargli una posizione nella vita. Io, in particolare, ho passato tanto tempo, fin da quando era bambino, a trasmettergli i segreti del mestiere. E questa è la riconoscenza con la quale mi ripaga. Lo voglio interdire e diseredare non tanto per il danno economico subito, quanto piuttosto nella speranza che sotto la pressione della pena, del bando della città, il ragazzo cambi atteggiamento e rinsavisca. Forse così riuscirò a domarlo. Ma Pietro, essere in esilio significa stare lontano dalla propria casa e famiglia, con l'esplicito rifiuto del permesso di farvi ritorno, o sotto la minaccia di essere imprigionato o giustiziato in caso di ritorno. Mi sembra una punizione troppo sproporzionata per Francesco. Sei troppo severo con lui. Pica Bourlemont ovviamente non poteva conoscere la Divina Commedia, che sarebbe stata scritta dall'Alighieri anni dopo, in esilio appunto. E questi versi del Paradiso avrebbero potuto essere una risposta adeguata all'intransigenza del padre Pietro Bernardone. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello esilio pria saetta. Tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. Ma Francesco, nella speranza di non andare in esilio e di poter esporre le sue ragioni, si appellò a un'altra autorità. Tu, padre, fai come vuoi, ma non potrai impedirmi di fare ricorso al vescovo. Lui, che è un sant'uomo, mi capirà. San Francesco, il poverello di Assisi. Quarta puntata. Il processo in piazza, la predicazione, i primi compagni. Di Paolo Brunatto. Di fronte alla decisione del padre di Francesco, Pietro Bernardone, di deferire suo figlio ai consoli di Assisi affinché lo bandissero dalla città, Francesco si appellò al vescovo Guido II. Il processo si svolse così nell'inverno del 1206 all'aperto, sulla piazza di Santa Maria Maggiore di Assisi, davanti al palazzo del vescovo, e tutta Assisi fu presente al giudizio. Tanti altri dovettero trovare posto nelle stradine adiacenti, vista la grande quantità di gente che era convenuta per assistere alla messa in scena pubblica di questo dramma familiare. Guido II, vescovo di Assisi, che presiedeva il processo, indossava un elegante mantello di velluto azzurro. Iniziò per primo a parlare Pietro Bernardone. Non può restare nella nostra famiglia un figlio così poco riconoscente e che con il suo comportamento ci rega grave offesa. Il vescovo, che probabilmente intuiva la buona fede del giovane Francesco, cercò di condurre il dibattimento in modo equanime. Sei tu, Giovanni Moriconi, detto Francesco, il figlio di Pietro Bernardone? Sì, sono io. Tuo padre, che è contro di te, turbato e scandalizzato, hai capito di che cosa ti accusa? Francesco non rispose. È vero che hai sottratto delle stoffe dai magazzini di tuo padre e che le hai vendute per conto tuo? Sì, ma per regalare il ricavato a un povero prete, e che poi lo ha rireso a mio padre. È vero che hai venduto a Foligno pure un cavallo? Era il mio palafreno. Me lo aveva regalato mia madre. Hai sottratto altro denaro a tuo padre? Erano denari che avevo guadagnato con il mio lavoro, che poi ho dato ai poveri, e con i quali ho comprato materiali per restaurare una chiesa. E così mi aveva comandato il Signore. Te lo aveva comandato il Signore? Ti rendi conto della gravità della tua affermazione? Servire e beneficare nostro Signore, la Santa Chiesa e i poveri, è giusto, ma non con i soldi che non ti appartengono. Devi rendere i danari e le stoffe che hai sottratto dal magazzino di tuo padre. E io non ho più niente. E di mio padre ho solo l'abito che indosso. Francesco, in un baleno, si spogliò, si tolse anche le mutande e gettò i suoi vestiti ai piedi del padre, rimanendo completamente nudo. La folla rumoreggiò. Ci furono anche degli applausi. Finora ho chiamato te, mio padre sulla terra. Ed ora in poi posso dire con tutta sicurezza: Padre nostro che sei nei cieli, perché in Lui ho riposto ogni mio tesoro e ho collocato tutta la mia fiducia e la mia speranza. Pietro Bernardone raccolse i vestiti e se ne andò via furente. Il vescovo balzò subito in piedi e, come scrive San Bonaventura, lo strinse piangendo fra le braccia e da quel buono e pio uomo qual egli era lo coperse con il suo manto mentre ordinava ai servi di portare qualcosa per coprire quelle membra nude. Questo atto di manifesta protezione da parte del vescovo è stato interpretato come l'accoglienza di Francesco nella madre chiesa. Con questo gesto Francesco sembra uscire dal suo secolo, dal senso comune. È un gesto che lo pone immediatamente al limite. Francesco diede così inizio ad un nuovo percorso di vita. Francesco, ormai bandito da Assisi, si diresse verso la vicina Gubbio solo e a piedi e cominciò a scalare i contrafforti del Monte Subasio. Era inverno e nevicava. Si mise a recitare, quasi cantando, le lodi a Dio. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. dove odio, fa che io porti l'amore. Dove offesa, che io porti il perdono. Dove discordia, che io porti l'unione. Dove dubbio, che io porti la fede. Dove errore, che io porti la verità. Cantava Francesco agli alberi, al vento e alle nuvole. Sbucarono a un tratto dalla macchia dei briganti. Erano bande che d'inverno infestavano le foreste. I malviventi si gettarono su di lui e gli chiesero brutalmente chi fosse. Sono l'araldo del Gran Re. Tira fuori i soldi. Mi spiace davvero, gli ultimi li ho dati a un lebbroso. Questo non ha il becco d'un quattrino. Sono un povero servo di Dio e sarò sempre senza un soldo. E va in malora, stupido araldo del Gran Re. I briganti picchiarono il povero Francesco e lo gettarono in un fosso pieno di neve, gridando: Tò, questo è il tuo posto, misero araldo di non si sa quale re. Tanti saluti al Gran Re. Racconta Tommaso da Celano. E voltolandosi di qua e di là, scossasi di dosso la neve, come quelli si furono allontanati, saltò fuori dal fosso e, pieno di gioia, riprese ad alta voce a far risuonare per i boschi le lodi al creatore di tutte le cose. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove odio, fa che io porti l'amore. Dove offesa, che io porti il perdono. Francesco riprese così il suo cammino verso Gubbio, dove aveva da sempre diversi amici, ma prima decise di fermarsi in un convento. Chi sei? Cosa vuoi? Un converso di San Damiano. Mi posso riparare da voi? Avete una vecchia tunica? Potete darmi un po' di pane in nome di Cristo? Vecchie tuniche non ne abbiamo. Datemi qualcosa da mangiare. Se vuoi restare, devi obbedire alla nostra regola di pregare e lavorare, ora et labora. Potrai fare lo sguattero in cucina, spaccare la legna, portare acqua, pulire il pavimento. Racconta Tommaso da Celano. Come nutrimento gli permettevano di prelevare un poco di quelle acque grasse che venivano date ai porci. Dopo qualche giorno, Francesco lasciò il convento e arrivò a Gubbio, dove l'amico Federico Spadalonga lo accolse benevolmente. Scrive Bonaventura da Bagnoregio. Giunse a Gubbio. Qui, riconosciuto e accolto da un suo vecchio amico, fu ricoperto di una povera tunica, come si conveniva ad un poverello di Cristo. Ti ringrazio, amico Federico. D'ora in poi porterò sempre la divisa degli eremiti. Ecco qua, la tunica stretta ai fianchi da una cintura di cuoio o da una corda, sandali ai piedi scalzi e un bastone in mano. Ma ora ti devo lasciare. Voglio andare dai miei fratelli lebbrosi e servirli con grande diligenza per amore di Dio. Laverò loro i piedi, fascerò le loro ulcere, spremerò e pulirò le loro piaghe purulente. Francesco, amante d'ogni forma di umiltà, si trasferì presso i lebbrosi e restò con loro, servendoli umilmente e amorevolmente con somma cura. Si trattava del lebrosario intitolato a San Lazzaro di Betania, e nel suo testamento disse chiaramente che la vera svolta verso la piena conversione ebbe inizio per lui quando si era accostato a queste persone. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così. quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E accostandomi a loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E in seguito stetti un poco e uscii dal secolo. Sembra che il contatto con i lebbrosi favorisse la sua conversione definitiva. Francesco non ebbe mai una fissa dimora. Solamente nel 1213 il beato Villano, vescovo di Gubbio e benedettino dell'abbazia di San Pietro, concesse ai frati di stabilire una loro sede nell'antica Santa Maria della Vittoria, che la tradizione indica come il luogo in cui Francesco ammansì il lupo. Si può leggere nei fioretti: al tempo che Santo Francesco dimorava nella città di Gubbio, apparì un lupo grandissimo, terribile e feroce, il quale non solo divorava gli animali, ma eziandio gli uomini. Intanto che tutti i cittadini stavano in gran paura e tutti andavano armati, come se egli non andassero a combattere. E con tutto ciò non si potevano difendere da lui, che in lui si scontrava solo. Per la qualcosa, Santo Francesco, avendo compassione agli uomini della città, volle farsi incontro a questo lupo e, facendosi il segno della croce, tutta la sua fidanza ponendo in Dio, il detto lupo si fa incontro a Santo Francesco con la bocca aperta, che chiamalo a sé e dicegli così: «Vieni, vieni qua, frate lupo. Io ti comando dalla parte di Cristo che tu non faccia male né a me né a persona». Il lupo terribile chiuse la bocca e ristette di correre. E venne come un agnello e gettossi ai piedi di Santo Francesco a giacere. Allora Santo Francesco gli parlò così: «Ah, frate lupo, tu fai molti danni da queste parti. Hai fatti grandissimi malefici, guastando e uccidendo le creature di Dio. E ogni gente grida e mormora di te, e tutta questa terra te ne mica. Ma io voglio, frate lupo, far pace tra te e costoro, sicché tu non li offenda più, ed egli no, ti perdonino ogni offesa passata, e negli uomini, nei cani, perseguitino più». Pare che successivamente Francesco convinse la gente del posto, in cambio della mansuetudine del lupo, di non fargli più mancare cibo. Il paese si legò così tanto a questo animale che quando il lupo morì, i cittadini si rattristarono profondamente. Arrivò l'estate, lo scandalo sollevato dalla rinuncia ai beni paterni si era ormai placato e Francesco ritornò ad Assisi. «Me ne voglio stare un po' solo, per un po' di tempo, e assaporare il dolce gusto della solitudine. Vorrei anche riparare alcune chiese in rovina, come quella di San Pietro, che sta fuori le mura, la Porziuncola, a Santa Maria degli Angeli e San Damiano. Farò il muratore per restaurare le case di Dio. Voglio dedicarmi alla preghiera, servire i lebbrosi, lavorare come muratore e chiedere l'elemosina». E diceva a Don Pietro, il vecchio prete di San Damiano: «Voglio vivere nella povertà volontaria, ispirandomi all'esempio di Cristo. lancerò così un messaggio opposto alla società delle facili ricchezze nella quale viviamo. Rinuncerò alle attrattive mondane, vivendo gioiosamente come un ignorante, un pazzo, ovvero un giullare, dimostrando come la mia obiezione ai valori fondanti della società di oggi possa generare una perfetta letizia. Il 24 febbraio 1208, giorno di San Mattia, dopo aver ascoltato il passo del Vangelo secondo Matteo, nella chiesa di San Nicolò ad Assisi, Francesco sentì fermamente di dover portare la parola di Dio per le strade del mondo. Il Vangelo secondo Matteo racconta della nascita e infanzia di Gesù, la promulgazione del Regno dei Cieli, il discorso della montagna, la predicazione del Regno dei Cieli e infine la passione e resurrezione di Gesù. Don Pietro, voglio iniziare la mia predicazione. Dapprima nei dintorni di Assisi. Mi è venuto a trovare Bernardo di Quintavalle, mio amico d'infanzia, e mi ha detto che si vuole unire a me, vivere con me. Sono commosso. Seguendo l'esempio di Bernardo, altri si avvicinarono a Francesco, tra i quali Pietro Cattani, Filippo Longo di Atri, frate Egidio, frate Leone, frate Masseo, frate Elia Bombarone, frate Ginepro. Così prendeva corpo il movimento francescano. Poi, insieme ai suoi compagni, Francesco iniziò a portare la sua predicazione fuori dall'Umbria. Tommaso da Celano così descrive la nascita dell'ordine dei frati minori. Correvano gli uomini e anche le donne. Si affrettavano i chierici e i religiosi per vedere e sentire il santo di Dio, che pareva a tutti un uomo di un altro mondo. Molti, abbandonate le cure del mondo, nella vita e negli insegnamenti del beatissimo padre Francesco, impararono a conoscere se stessi e si rivolsero all'amore e al culto del Creatore. Cominciarono molti del popolo, nobili e plebei, chierici e laici, tocchi dalla divina ispirazione, ad andare a San Francesco, desiderosi di militare per sempre sotto la sua guida e ai suoi ordini. E Tommaso da Celano ricorda anche come Francesco scrisse per la prima volta la regola approvata poi da Papa Innocenzo III. Scrisse per sé e per i frati presenti e futuri, semplicemente in poche parole, una norma di vita e regola, servendosi specialmente di espressioni del Santo Vangelo alla cui perfezione unicamente anelava. Poi si recò a Roma con tutti i detti frati, desiderando ardentemente farsi confermare da Papa Innocenzo III ciò che aveva già scritto. Nel 1209, quando Francesco ebbe raccolto intorno a sé 12 compagni, decise di recarsi a Roma. Fratelli miei, dobbiamo andare a Roma, da Papa Innocenzo III, per ottenere l'autorizzazione della nostra regola di vita. Dobbiamo avere l'approvazione del Santo Padre per poter esercitare il nostro apostolato di frati minori e poter predicare. Dopo alcune esitazioni iniziali, il pontefice concesse a Francesco la propria approvazione orale per il suo ordine dei frati minori. A differenza degli altri ordini pauperistici, Francesco non contestava l'autorità della Chiesa, ma la considerava come madre e le offriva sincera obbedienza. Francesco era la personalità ideale per Innocenzo, che poteva finalmente incanalare le inquietudini e il bisogno di partecipazione dei ceti più umili nel seno della Chiesa, senza porsi come antagonista ad essa, scivolando così nell'eresia. Di ritorno da Roma, i frati si installarono in un tugurio presso Rivotorto, sulla strada verso Foligno. Vivremo qui, fratelli miei. Ma è vicino ad un ospedale di lebbrosi. Proprio per questo ho scelto questo luogo, perché è vicino ai nostri fratelli lebbrosi. ma è umido e malsano. Infatti, i frati dovettero abbandonarlo l'anno successivo, stabilendosi presso la piccola abbadia di Santa Maria degli Angeli, sulla pianura del Tescio, in località Porziuncola. Abbandonata in mezzo al bosco di cerri, venne concessa a Francesco e ai suoi frati dall'abate di San Benedetto del Subasio. Ecco come Tommaso da Celano descrive i primi passi dell'ordine dei frati minori. Fondò in origine l'ordine dei frati minori, votati alla povertà e all'amore incondizionato per i più bisognosi. Mentre nella regola si scriveva «siamo minori», sentendo leggere quel passo, esclamò in quel punto: «Voglio che questa fraternità sia chiamata Ordine dei Frati Minori». San Francesco, il poverello di Assisi. Quinta puntata. Il catarismo, le stigmate e altri miracoli, la predica agli uccelli. Di Paolo Brunatto. Durante l'esistenza di San Francesco era viva la vicenda dei catari, che predicavano un dualismo bene e male portato alle estreme conseguenze. Essi avevano avuto numerosi focolai nella vicina Toscana e si erano ridotti alla clandestinità dopo la sanguinosa crociata albigese indetta da Innocenzo III per estirpare l'eresia catara dai territori della lingua d'oca nel 1209. Francesco avrebbe potuto essere scambiato per un cataro per la sua povertà e la predicazione ai ceti subalterni. Il poverello di Assisi amava dire: contrariamente ai catari, noi mangeremmo i cibi che loro rifiutano, carni, latte, uova, e accetteremo tutto quello che ci verrà offerto. Col tempo la fama di Francesco crebbe enormemente e crebbe notevolmente anche la schiera dei frati. La Porziuncola fu il luogo dove la rigida disciplina predicata da Francesco fu messa in pratica. E come scrive Tommaso da Celano: vi si osservava la più rigida disciplina, sia nel silenzio e nel lavoro, sia in tutti gli altri atti della vita regolare. Nessuno vi poteva entrare, se non i frati a ciò scelti da ogni parte, e che il santo voleva pieni di vera devozione a Dio e in tutto perfetti. Ho proibito l'accesso ad ogni secolare, poiché non voglio che i frati ivi dimoranti, ristretti a un numero determinato, per prurito di sapere gli avvenimenti mondani, interrompano la contemplazione delle cose celesti e che dai cerloni vengano trascinati a occuparsi delle cose terrene. Qui non sarà lecito ad alcuno dire parole oziose, né riferire quelle dette da altri. E se qualcuno cadrà in questa colpa, verrà severamente punito, così che impari a non farlo mai più. questo luogo, per testimonianza dei vecchi abitanti, soleva essere designato anche con il nome di Santa Maria degli Angeli, e mi è stato rivelato da Dio che la Beata Vergine, tra le altre chiese costruite nel mondo in suo onore, quella prediligeva, e perciò anch'io l'amo più delle altre. Nel 1217 Francesco presiedette il primo dei capitoli generali dell'ordine, che si tenne alla Porziuncola. Questi capitoli sorsero con l'esigenza di impostare la vita comunitaria, di organizzare l'attività di preghiera, di rinsaldare l'unità interna ed esterna e di decidere nuove missioni, e si tenevano ogni 2 anni. Con il primo fu organizzata la grande espansione dell'ordine in Italia e furono inviate missioni in Germania, Francia e Spagna. Ancona, 1219. Voglio imbarcarmi per l'Egitto e la Palestina, e in questa occasione della quinta crociata voglio portare un messaggio cristiano di pace e incontrarmi anche con i musulmani. Ho ottenuto dal legato pontificio di poter incontrare sultano Ayyubid al-Malik al-Kamil, nipote di Saladino, per potergli proclamare la buona novella e mettere fine alle guerre fra cristiani e musulmani. Il poverello di Assisi non riuscì tuttavia nel suo intento, ma suscitò profonda ammirazione nel sultano, che lo vide come un sant'uomo e lo trattò con rispetto. Dopo aver offerto invano a Francesco numerose ricchezze, lo lasciò tornare incolume all'accampamento dei crociati. La leggenda vuole che Francesco subisse anche la prova del fuoco, raffigurata in numerosi cicli pittorici. La pacifica rivoluzione che il nuovo ordine stava compiendo cominciò ad essere palese a tutti. Iniziarono però anche i primi problemi. Temo che, ingrandendosi senza controllo, la fraternità dei minori devii dai propositi iniziali. Per dare l'esempio e potermi dedicare completamente alla mia missione, ho deciso di rinunciare al governo dell'ordine in favore dell'amico seguace Pietro Cattani, che però morì l'anno seguente. Al successivo capitolo generale, detto delle Stuoie, del giugno 1221, venne scelto come vicario frate Elia. Nel 1223, con la bolla Sole Tanuere, Papa Onorio III approvò definitivamente la regola seconda, che rispetto alla prima è più corta e contiene meno citazioni evangeliche. La doppia stesura della regola a distanza ravvicinata testimonia un ripensamento a fronte di difficoltà nel progetto. Francesco, pur non condannando in sé né la ricchezza, né la sapienza, né il potere, si rendeva conto che i frati che liberamente avevano deciso di seguirlo e di seguire la sua regola di vita stavano diventando colti e accettavano doni e ricchezze, anche se formalmente questi erano incamerati dalla Santa Sede. Però continuava a enunciare i suoi principi. Noi frati minori dobbiamo farci ancora più piccoli e più umili di tutti. I primi frati erano veramente uomini che non si tenevano in nessun conto, che si umiliavano davanti a tutti e coglievano ogni occasione per abbassarsi e ricevere le peggiori ingiurie possibili. 1223. Era dicembre, un dicembre piovoso e triste. Si avvicinava il Natale e Francesco, a dorso di un somaro, raggiunse l'eremo di Greccio. Sbirciando da una finestra e vedendo che i frati stavano apparecchiando la tavola con una tovaglia di lino bianco e che vi stavano disponendo delle stoviglie di ceramica, fu molto contrariato. Copertosi il capo con il cappuccio sdrucito, strappato ancor di più il saio, accentuato il suo aspetto di mendicante, dette alcuni colpi con il suo bastone alla porta del convento. Per amore dell'Altissimo Iddio, Aprite a un povero pellegrino malato. E quando fu dentro, andò a sedersi accanto al focolare e disse: quando un povero, e io sono uno di loro, entra in un convento e chiede da mangiare, deve sedersi alla tavola insieme ai frati e non per terra, mentre i frati stanno assisi in alto. Un frate poi gli chiese: quest'anno il Natale cade di venerdì. Si deve digiunare, pur essendo la ricorrenza della nascita di Nostro Signore? È peccato parlare di astinenza in questo giorno. Anche i muri hanno diritto a mangiare carne. Bisognerebbe ungerli di grasso, perché possano anch'essi mangiare di grasso. E bisogna dare una doppia razione di fieno e di avena ai buoi e agli asinelli. E dovremmo spargere chicchi di frumento sulle strade, per prodigalità verso i nostri fratelli uccelli e le nostre sirocche allodole, e per festeggiare come si deve la nascita di Gesù, bisognerà trovare qui vicino una grotta dove riprodurre realisticamente la natività. Il nobile Giovanni Velita, fresco terziario e che ha donato le mura del convento, ha un pezzo di montagna prossimo all'eremo, traforato da grotte e da caverne. Andatelo a trovare e ditegli di far preparare nella grotta più grande una mangiatoia e di posizionarvi accanto un asino e una mucca. I confratelli sarebbero state le comparse e gli abitanti di Greccio gli spettatori. Nasceva il presepe. Racconta Tommaso da Celano. Francesco passò la veglia davanti alla greppia, spezzato dalla compassione e colmo di indicibile gaudio, come se realmente vedesse il bambino coricato nella mangiatoia. La leggenda vuole che a Greccio, il giorno della rappresentazione, vi fosse un episodio miracoloso. Comparve, si materializzò il bambino Gesù. Nei Vangeli si dice: se non credete a me, credete almeno nei miracoli. Giunge il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza. Sono convocati i frati da parecchi luoghi e gli uomini e le donne della regione festanti portano ognuno, secondo che può, ceri e fiaccole per rischiarare la notte. Giunge infine il santo di Dio, vede tutto preparato e ne gode. Si dispone la greppia, si porta il fieno, sommenati il bue e l'asino. Si onora la semplicità, si esalta la povertà, si loda l'umiltà e Greggio si trasforma quasi in una nuova Betlemme. Oltre alla vita attiva, Francesco, forse malato, sentiva continuamente l'esigenza di ritirarsi in posti solitari per ritemprarsi e pregare, come ad esempio l'eremo delle carceri di Assisi, sulle pendici del Monte Subasio, o l'Isola Maggiore sul lago Trasimeno, o l'eremo delle celle a Cortona. Erano luoghi che offrivano al frate il silenzio e la pace, che gli consentivano una più intima e raccolta preghiera. Frate Elia, vado per qualche tempo in ritiro all'eremo delle celle in quel di Cortona. Ho bisogno di silenzio e raccoglimento. Fratello, ma tu non sei in buona salute. Hai una tosse che non mi piace per niente. Non dovresti andare all'eremo, ma piuttosto alloggiare in convento, dove qualcuno si può occupare di te e aiutarti a rimetterti in forze. Ma Francesco alternava periodi di meditazione e preghiera a lunghi viaggi, predicazioni e incontri ravvicinati con poveri indifesi e con potenti. È il 1213. In un memorabile incontro di Francesco con il conte Orlando, nel suo castello di San Leo, quest'ultimo gli disse: Francesco, per le molte tue buone azioni del passato e quelle che farai in futuro, ti faccio dono del Monte della Verna. Tu certamente saprai farne un uso adeguato. Da allora Francesco si recò più volte alla Verna con i suoi fratelli. Si è parlato molto della ferita che apparve sul suo fianco destro nel costato e che solo un frate avrebbe visto. dice Tommaso da Celano. Sebbene la necessità stessa di tenere scoperte le mani e i piedi manifestasse ad alcuni le stigmate, pure la ferita del fianco nessuno fu degno di vederla durante la vita, eccetto un frate ed una sola volta. Infatti, ogni qualvolta faceva sbattere la tonaca, copriva col braccio destro la ferita nel fianco. Talora anche copriva la piaga beata posando la mano sinistra sul petto trafitto. Pare che uno dei compagni... Si tratterebbe di frate Rufino, che nel fargli una frizione lasciò scorrere la mano sulla ferita, producendogli un forte dolore. Un altro dei frati, per curiosità di vedere ciò che era nascosto agli altri, disse un giorno al padre santo: «Vuoi, padre, che sbattiamo un po' la tua tonaca?» «Te ne rimuneri, signore, poiché ne ho bisogno.» E così, riguardandolo attentamente, mentre quello si spogliava, il frate vide scoperta la ferita sul fianco. Solo costui la vide mentre il santo viveva, e nessun altro fin dopo la morte. Dunque fu frate Rufino a toccare la ferita, e l'altro frate che la vide sembra che fosse frate Elia. Le stigmate sono la riproduzione delle ferite che, secondo il racconto evangelico, furono inflitte a Gesù Cristo durante la sua crocifissione. La spiegazione del fenomeno ha generato anche tra i cristiani aspri dibattiti, tra coloro che lo attribuiscono a varie patologie o vere e proprie frodi e coloro che lo attribuiscono a un miracolo. Sembra che padre Agostino Gemelli, uno dei rappresentanti più accreditati per le questioni di carattere scientifico del Vaticano, asserisse numerose volte che Francesco d'Assisi, pur non essendovi alcuna prova scientifica, doveva essere considerato il solo stigmatizzato della storia cristiana, ovvero il solo in cui si potesse dimostrare un'origine divina di tali manifestazioni. Un caso moderno di stigmatizzazione estremamente interessante è stato quello di San Pio da Pietralcina. Il processo canonico per la Chiesa ha sancito definitivamente che le stigmate di Padre Pio non avrebbero origine umana e dunque sarebbero frutto dell'intervento di forze sovrannaturali. Ma per tornare a San Francesco, ci sono i misteri, i miracoli e gli avvenimenti prodigiosi della sua vita, forse meno fondamentali delle stigmate, ma non per questo meno sublimi. Ecco cosa dice Tommaso da Celano nella sua vita di San Francesco. Molte volte rimaneva così astratto per la grande dolcezza della contemplazione che, rapito in estasi, non voleva poi ridire ad alcuno quanto aveva provato di sovraumano. Tuttavia, da un sol fatto avvenuto in pubblico possiamo arguire con quanta frequenza fosse assorto nella celeste dolcezza. Doveva passare un giorno sopra un asino per Borgo San Sepolcro. San Francesco scendeva dalla Verna dopo aver ricevuto le stigmate. «Voglio riposare nel lebbrosario che si trova vicino a San Sepolcro.» Ma molti vennero a conoscenza del suo passaggio. Accorrono d'ogni parte uomini e donne per vederlo e per la solita bramosia di toccarlo. Lo toccano, lo scuotono e tagliano pezzetti della sua tonaca per conservarli. Ma sembra un uomo insensibile a tutto e come morto, non si avvede di nulla. Si avvicina finalmente all'ospizio dopo aver lasciato il borgo e, come se ritornasse da un altro luogo, quel contemplatore delle cose celesti domanda con premura quando si giungerà al borgo. Francesco, in estasi, era, in un certo senso, come uscito dal proprio corpo, come proiettato al di là dello spazio e del tempo, totalmente concentrato in una sorta di meditazione interiore, nella quale i suoi sensi si manifestavano in modo insolito. I santi sono capaci di intervenire sugli elementi. A questo proposito, scrive Tommaso da Celano: una volta il beato Francesco, volendo recarsi in un romitorio e trovandosi assai debole, ottenne in prestito un asino da un uomo povero. Era l'estate e il contadino, salendo con l'uomo di Dio la montagna, stanco per il cammino aspro e lungo, prima di giungere alla meta, spossato per l'arsura, si sentiva venir meno. Grida allora con grande istanza verso il santo: ti scongiuro, abbi pietà di me, non ce la faccio, se non bevo muoio. Il santo di Dio, sempre compassionevole con i sofferenti, senza indugio scese, si inginocchiò con le palme tese al cielo e non cessò dal pregare finché non si sentì esaudito. Affrettati e la troverai acqua viva, che proprio ora Cristo misericordiosamente ha fatto sgorgare dalla pietra affinché tu possa berne. Beve l'uomo dell'acqua scaturita da una roccia durissima per virtù della preghiera di Francesco. In quel luogo non era mai stato prima alcun corso d'acqua, né per quanti diligenti ricerche siano state fatte, se ne poté trovare in seguito. Colui che ebbe il dono di essere unito a Cristo, per grazia singolare, non è cosa straordinaria se ha compiuto opere simili a quelli di altri santi. Ma il Francesco interprete di una santità più originale e sublime è quello dei fioretti, nella famosa predica agli uccelli. E, passando oltre con quello fervore, levò gli occhi e vide alquanti arbori allato alla via, in sui quali era infinita moltitudine d'uccelli, di che Santo Francesco si meravigliò e disse ai compagni: voi m'aspetterete qui nella via e io andrò a predicare alle mie sirocche uccelli. Ed entrò nel campo e cominciò a predicare agli uccelli che erano in terra, e subitamente quelli che erano in sugli arbori se ne vennero a lui insieme a tutti quanti e stettono fermi, mentre che Santo Francesco compie di predicare. Voi siete molto tenuti a Dio vostro Creatore, e sempre in ogni luogo il dovete lodare, imperoché vi ha dato libertà di volare in ogni luogo. Oltre a questo, voi non seminate e non mietete, e Dio vi pasce e dàvvi fiumi e le fonti per vostro bere, dàvvi monti e le valli per vostro rifugio e gli alberi alti per fare il vostro nido. Tutti quanti quegli uccelli cominciarono ad aprire i becchi, distendere i colli, aprire l'ali e riverentemente inchinare i capi insino a terra e con canti dimostrare che le parole del Padre Santo davano loro grandissimo diletto. Finalmente compiuta la predicazione, Santo Francesco fece loro il segno della croce e diè loro licenza di partirsi. E allora tutti quegli uccelli si levarono in aria con meravigliosi canti, e poi, secondo la croce che aveva fatta loro Santo Francesco, si divisero in quattro parti, e ciascuna schiera n'andava cantando meravigliosi canti. San Francesco, il poverello di Assisi. Sesta puntata. La perfetta Letizia. Gli ultimi anni. Di Paolo Brunatto. A proposito della perfetta Letizia, che era uno dei cavalli di battaglia del poverello di Assisi, dice Tommaso da Celano: sicurissimo rimedio contro le mille insidie e astuzie del nemico, il nostro santo affermava essere la Letizia spirituale. Infatti diceva: il diavolo fa grande tripudio quando può togliere la gioia dello spirito ad un servo di Dio. E gli porta una polvere con la quale, appena può gettarla per qualche spiraglio nella coscienza, insudicia il candore della mente e la purezza della vita. Ma quando invece i cuori sono pieni di spirituale letizia, invano il serpente schizza fuori suo mortale veleno. I demoni non possono offendere il servo di Cristo quando lo vedono pieno di santa gioia. Invece, quando l'animo è disposto al pianto, desolato e afflitto, o si lascia facilmente vincere dalla tristezza, o si lascia trasportare a vani piaceri. Si studiava perciò egli stesso di essere sempre lieto e conservare l'unzione di spirito e l'olio della letizia. Evitava con somma cura la pessima malattia della malinconia, cosicché quando la sentiva infiltrarsi pur di poco nel suo spirito, subito si metteva a pregare e diceva: il servo di Dio, appena si sente un po' turbato, come suolo accadere, deve immediatamente levarsi a pregare e rimanere alla presenza del Padre Celeste finché egli sia resa la letizia salutare. Infatti, se indulgerà nella malinconia, crescerà quel male babilonese. Francesco, col nome Babilonia, voleva indicare la vita mondana. E continua Tommaso da Celano: se infine questa malinconia non avrà sfogo nelle lacrime, formerà nel cuore una ruggine indelebile. Ma a cercare di contrastare la perfetta letizia di Francesco arrivarono negli ultimi anni della sua vita molte malattie. Soffriva infatti di disturbi al fegato e alla vista. Varie volte furono tentati degli interventi medici per lenire le sue sofferenze, ma inutilmente. Nel giugno 1226, mentre si trovava alle celle di Cortona, dopo una notte molto tormentata, trovò il modo di dettare il testamento, che volle fosse sempre legato alla regola e in cui esortava l'ordine a non allontanarsi dallo spirito originario. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo. Poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana a motivo del loro ordine, che anche se mi facessero persecuzione, vorrei ricorrere proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone, e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie in cui dimorano, non vorrei predicare contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come i miei signori, e non voglio considerare il loro peccato, poiché in essi io riconosco il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché dello stesso Altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue che essi ricevono, ed essi soli amministrano gli altri. E dobbiamo onorare e venerare tutti i teologi e coloro che amministrano le santissime parole divine, così come coloro che ci amministrano lo spirito e la vita. E dopo che il Signore mi diede dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. E Dio la fece scrivere con poche parole e con semplicità, e il Signor Papa me la confermò. E quelli che venivano per abbracciare questa vita distribuivano ai poveri tutto quello che potevano avere, ed erano contenti di una sola tonaca rappezzata dentro e fuori del cingolo e delle brache, e non volevano avere di più. In questa prima parte del testamento San Francesco riepiloga i momenti salienti della sua vita e ribadisce la sua fedeltà alla Madre Chiesa. Poi esorta i suoi frati ad applicarsi nel lavoro fisico come pratica spirituale. Ed io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare. E voglio fermamente che tutti gli altri frati lavorino di un lavoro quale si conviene all'onestà. Coloro che non sanno imparino non per la cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l'esempio e tener lontano l'ozio. Quando poi non ci fosse data la ricompensa del lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore, chiedendo l'elemosina di porta in porta. Si guardino bene i frati di non accettare assolutamente chiese, povere abitazioni e quanto altro viene costruito per loro, se non fossero, come si addice alla santa povertà che abbiamo promesso nella regola, sempre ospitandovi come forestieri e pellegrini. Il tema dell'obbedienza è centrale nella filosofia di vita di Francesco, come d'altronde il rigoroso rispetto della regola. E fermamente voglio obbedire al ministro generale di questa fraternità e a quel guardiano che gli piacerà di assegnarmi, e così voglio essere prigioniero nelle sue mani, che io non possa andare o fare oltre l'obbedienza e la sua volontà, perché egli è mio Signore. E sebbene sia semplice e infermo, tuttavia voglio sempre avere un chierico che mi reciti l'ufficio come è prescritto nella regola. Non dicano i frati: questa è un'altra regola, perché questa è un ricordo, un'ammonizione, un'esortazione e il mio testamento, che io, frate Francesco, piccolino, faccio a voi, miei fratelli benedetti, perché osserviamo più cattolicamente la regola che abbiamo promesso al Signore. E a tutti i miei frati, chierici e laici, comando fermamente per obbedienza che non inseriscano spiegazioni nella regola e in queste parole dicendo: così si devono intendere, ma come il Signore mi ha dato di dire e di scrivere con semplicità e purezza la regola e queste parole. Così cercate di comprenderle con semplicità e senza commento, e di osservarle con sante opere sino alla fine. Come Francesco enfatizza per sé il tema dell'obbedienza, così esige dai suoi discepoli un'osservanza rigorosa e alla lettera della regola, che non vuole che sia modificata o interpretata. E chiunque osserverà queste cose sia ricolmo in cielo della benedizione dell'Altissimo Padre, e in terra sia ricolmato della benedizione del suo Figlio diletto, col Santissimo Spirito Paraclito, e con tutte le potenze dei cieli, e con tutti i santi. Ed io, frate Francesco, piccolino, vostro servo, per quel che io posso, confermo a voi, dentro e fuori, questa santissima benedizione. Amen. Il santo si trovava nella città toscana di Siena, quando, a seguito di un prolungato sbocco di sangue, i compagni temettero il peggio. Santo padre, dovresti lasciarci le tue ultime volontà, anche se ti auguriamo lunga vita. Scrivi che benedico tutti i miei frati che sono ora in questa religione e quelli che vi entreranno fino alla fine del mondo. E siccome, a motivo della debolezza e per la sofferenza della malattia, non posso parlare, brevemente manifesto ai miei frati la mia volontà in queste tre parole, e cioè in segno e memoria della mia benedizione e del mio testamento. Sempre si amino gli uni gli altri, sempre amino ed osservino Nostra Signora la Santa Povertà, e sempre siano fedeli e sottomessi ai prelati e a tutti i chierici della Santa Madre Chiesa. Nel settembre 1226 Francesco si trovava ad Assisi, nel palazzo del Vescovo, dove era stato portato per essere meglio curato. Chiedo a voi, illustrissimo e stimato Vescovo, umilmente, di poter tornare a morire nel mio luogo santo preferito, la Porzioncola. Qui la morte lo colse la sera del 3 ottobre. Il suo corpo, dopo aver attraversato Assisi ed essere stato portato perfino in San Damiano, per essere mostrato un'ultima volta a Chiara e le sue consorelle, venne sepolto nella chiesa di San Giorgio. Da qui la sua salma venne trasferita nell'attuale basilica nel 1230, 4 anni dopo la sua morte, 2 anni dopo la canonizzazione. Torniamo ai testamenti di San Francesco. Alcuni addirittura sostengono che questi testamenti furono in parte riscritti e corretti. Infatti, Gregorio IX disse: secondo il mio modo di vedere, questo testamento non ha una validità giuridica, perché non emana da una volontà concorde. Santità, cosa intende per volontà concorde? Che non rispecchia la volontà dell'ordine, perché tutto sommato qui si sta parlando di un'eredità. Francesco, negli ultimi anni della sua vita, si sente abbandonato e vede in un certo senso sgretolarsi anche l'ordine. Vede che si sta allontanando dalle sue aspettative, dai primi propositi. E le varie biografie, a partire dalla prima di Tommaso da Celano, vengono scritte per imporre una quiete ai dissidi interni all'ordine. Non a caso, i capitoli generali successivi, quello di Parigi con Bonaventura e quello precedente di Genova, sotto il generalato di Crescenzio, ribadiranno questa figura di santità per mitigare i dissidi sull'eredità lasciata da Francesco. Sono illuminanti alcune testimonianze dei suoi biografi, come Tommaso da Celano, che enfatizza, quando descrive come doveva essere un predicatore per San Francesco, il principio di corresponsabilità. I ministri della Divina Parola li voleva tali che, occupati negli studi spirituali, non fossero impediti da altri uffici. Diceva infatti che essi hanno ricevuto da un gran re l'incarico di bandire ai popoli i suoi ordini, dopo averli uditi dalla sua bocca. Diceva perciò anche: il predicatore deve prima, nel segreto dell'orazione, attingere ciò che poi dovrà diffondere con la sacra predicazione, infocarsi interiormente prima che dar fuori frette parole. Stimava doversi avere in reverenza un tale ufficio e da tutti venerarsi quelli che lo esercitano. Questi sono la vita del corpo, questi i debellatori dei demoni, questi la lucerna del mondo. E ancora più degni d'onore giudicava i dottori in teologia. Infatti fece scrivere come precetto generale nel suo testamentum: dobbiamo onorare e venerare tutti i teologi e coloro i quali ci dispensano le divine parole, come quelli che ci somministrano lo spirito e la vita. Ma facciamo un passo indietro. Le sue furono prediche semplici e per gente semplice. Quando Francesco parlava, rapiva la folla. Le sue parole avevano una presa incredibile. A Carnano, durante un suo sermone, gli abitanti rimasero affascinati a tal punto che suscitò una specie di conversione di massa. Tutti, infatti, lo volevano seguire. È in questa circostanza che Francesco pensa alla creazione del Terzo Ordine. Francesco sdegnò sempre quelle che Tommaso da Celano chiamava le povere ricchezze e aspirò sempre con tutto il cuore alla povertà, considerandola come la costante compagna del figlio di Dio e abbandonata da tutto il mondo, volle sposarla con un vincolo di eterno amore. E come scrive ancora Tommaso da Celano nella sua vita di San Francesco: innamorato della sua bellezza per esserle strettamente unito come a donna sua e per formare di due un solo spirito, non solo abbandona il padre e la madre, ma tutto allontana da sé. La stringe in casti amplessi e nemmeno per un'ora sostiene di non esserne lo sposo fedele. È incredibile questa immagine di Tommaso da Celano, ardita e sensuale, anche se di una sensualità casta, di San Francesco per la povertà. Un'immagine probabilmente ispirata al celanese dallo straordinario opuscolo Sacrum Commercium Beati Francisci Cum Domina Paupertate. Questo diceva ai suoi figli essere la via della perfezione. Questa, pegno ed garanzia delle ricchezze eterne. Nessuno vi fu cupido d'oro quant'egli della povertà. Nessuno sollecito di custodire un tesoro più che costui questa perla evangelica. Ascoltatemi, fratelli. Non tollero di vedere in voi che mi circondate qualsiasi possesso che vi allontani dallo stile di vita povero che io vado da sempre predicando. Infatti, quando mi sono fatto frate, e sarà così fino alla mia morte, le mie uniche ricchezze sono e saranno una sola tonaca, una corda, un paio di mutande. Scrive ancora Tommaso da Celano. La povertà del suo abito indicava dove riponesse il suo tesoro, perciò lieto, perciò sicuro, perciò senza impacci godeva di aver scambiato le ricchezze destinate a perire con un bene 100 volte maggiore. Fratelli miei, dovete diventare esperti e io vi insegnerò come fare a costruire povere abitazioni. In realtà si tratta di capannucce di legna, non di pietra, e secondo un mio semplice povero modello al quale ho pensato a lungo. Come dice il Vangelo, le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i nidi, ma il Figlio di Dio non ha dove posare il capo. San Francesco, il poverello di Assisi. Settima puntata. L'ordine francescano. Il pranzo di Santa Chiara e Francesco. Di Paolo Brunatto. Voglio tenere un capitolo generale a Santa Maria degli Angeli, nel quale raduneremo diverse migliaia di frati. Sarà l'accampamento dell'esercito dei Cavalieri di Dio. Ecco come è riportato l'episodio nei fioretti di San Francesco. Essendo dunque radunato tutto il capitolo generale, il Santo Francesco, in fervore di spirito, propone la parola di Dio. Brieve è il diletto del mondo, ma la pena che seguita adesso è perpetua. Piccola è la pena di questa vita, ma la gloria dell'altra vita è infinita. Io vi comando, in virtù della santa obbedienza, a tutti voi che siete congregati qui, che nullo di voi abbia cura né sollecitudine di niuna cosa da mangiare o da bere o di cose necessarie al corpo, ma solamente intendete a orare e a lodare Dio, e tutta la sollecitudine del corpo vostro lasciate a Lui, imperò che Egli ha speciale cura di voi. L'ordine fondato da San Francesco, a differenza degli altri ordini religiosi esistenti, in particolare agostiniani e benedettini, ebbe il carisma di praticare non solo una vita povera, non possedendo beni quali conventi e terre, ma anche di condurre una vita mendicante. Ascoltate, fratelli, quelli che chiameremo gli ordini mendicanti sono quegli ordini religiosi che, non vivendo stabilmente con le rendite del lavoro dei campi o del commercio, vivono di provvidenza, cioè grazie alle offerte dei fedeli. Tale scelta comporterà la necessità di vivere nella povertà più radicale. Nell'anno Domini 1274 in Lione, in occasione del secondo concilio, diamo la parola al Santo Padre Gregorio X, che riguardo alle Costituzioni ha il potere di decretare un concilio generale con apposita proibizione ha cercato di evitare l'eccessiva diversità degli ordini religiosi causa di confusione. Ma l'inopportuno desiderio dei richiedenti in seguito ha strappato quasi il loro moltiplicarsi e la sfacciata temerità di alcuni ha prodotto una moltitudine di nuovi ordini, specie mendicanti, ancor prima di aver ottenuto un'approvazione di principio. Rinnovando la Costituzione, proibiamo assolutamente a chiunque di istituire un nuovo ordine o una nuova forma di vita religiosa o di prendere l'abito in un nuovo ordine. Proibiamo per sempre tutte, assolutamente tutte, le forme di vita religiosa e gli ordini mendicanti sorti dopo questo concilio che non abbiano avuto la conferma della sede apostolica, e sopprimiamo quelli che si fossero diffusi. Non vogliamo tuttavia che la presente Costituzione si applichi agli ordini dei predicatori e dei minori, la cui evidente utilità per la Chiesa universale ne testimonia l'approvazione. E qui Gregorio X alludeva ai francescani. Quanto agli ordini dei carmelitani e degli eremiti di Sant'Agostino, la cui fondazione risale a prima del Concilio Generale di cui abbiamo parlato, concediamo che essi possano rimanere nella propria condizione. Già alla morte di Francesco, l'ordine da lui fondato si scisse in due rami, gli spirituali e i conventuali. I primi fecero proprio la cosiddetta regola non bollata, cioè la regola approvata solo oralmente da Innocenzo III, che concedeva all'ordine e ai singoli frati di vivere in totale povertà. I secondi, invece, fecero propria la regola bollata promulgata da Papa Onorio III, meno severa, ma altrettanto innovativa. Gli spirituali fecero propria la vita ascetica e mendicante che aveva contraddistinto l'ordine ai suoi inizi, I secondi, invece, preferirono una vita più conventuale e la cura delle anime. Ecco come nei fioretti di San Francesco è descritta la nascita del terzo ordine. E, andando con impeto di spirito, senza considerare via o sentiero, giunsono a un castello che si chiamava Cannario, e Santo Francesco si pose a predicare, comandando prima le rondini. Sirocchi e rondini, dovreste stare un po' in silenzio, senza cantare, per permettermi di predicare. E le rondini ubbidironlo. Ed ivi predicò in tanto fervore che tutti gli uomini e le donne di quel castello, per devozione, gli volevano andare dietro e abbandonare il castello. Ma Santo Francesco disse loro: «Non abbiate fretta e non vi partite, e io ordinerò quello che voi dobbiate fare per salute dell'anime vostre». E allora pensò di fare il terzo ordine per universale di tutti. E così, lasciandoli molto consolati e bene disposti a penitenza, si partì. Ci furono dunque anche i laici aderenti al terzo ordine. Infatti, questi uomini, riuniti in fraternità, pur non aderendo alla vita religiosa vera e propria, con i tre voti di povertà, castità e obbedienza, e non essendo nemmeno chierici con facoltà di celebrare la Santa Messa e confessare, con il loro modo di vivere povero, penitenziale ed in soccorso dei deboli e dei malati, in ospedali e ospizi per pellegrini, calcarono l'ideale francescano al punto che videro l'autorità papale dar loro una regolamentazione con la bolla Supramontem del 18 agosto 1289, emanata a Rieti da Papa Nicolò IV. Il secondo ordine è quello delle Clarisse, fondato da Chiara d'Assisi, la quale ha redatto una regola propria. È costituito da suore di clausura e attualmente è presente in tutto il mondo. Nei fioretti si racconta che San Francesco spesse volte visitava Santa Chiara dandole insegnamenti. E avendo Chiara un gran desiderio di mangiare una volta con lui: «Vorrei tanto mangiare con te, Padre Santo. Concedemi questa grazia. Ogni incontro con voi è per me un insegnamento. Voi siete la pura ispirazione di tutte le mie decisioni penitenziali». Ma Francesco si rifiutava sempre di esaudire questo sincero desiderio di Chiara. Ecco come continua il racconto nei fioretti. Onde, vedendoli i suoi compagni il desiderio di Santa Chiara, dissono a Santo Francesco: «Padre, a noi non pare che questa rigidità sia secondo la carità divina, che suor Chiara, vergine così santa, a Dio diletta, tu non esaudisca in così piccola cosa com'è mangiare teco, e specialmente considerando che ella per le tue predicazioni abbandonò le ricchezze e le pompe del mondo. E di vero, se ella ti domandasse maggiore grazia che questa non è, sì la doveresti fare alla tua pianta spirituale». «Pare a voi che io la debba esaudire?» «Padre, sì degna cosa è che tu le faccia questa grazia e consolazione». «Da poi che pare a voi, pare anche a me. Ma ciò che ella sia più consolata, io voglio che questo mangiare si faccia in Santa Maria degli Agnoli, imperò che ella è stata a lungo tempo rinchiusa in San Damiano, sicché le gioverà di vedere il luogo di Santa Maria, dove ella fu tonduta e fatta sposa di Gesù Cristo, e ivi mangeremo insieme al nome di Dio». Il giorno convenuto, dunque, Santa Chiara, raggiante di gioia, uscì dal monastero con una compagna e con compagni di Santo Francesco e andò a Santa Maria degli Angeli. E, salutata devotamente la Vergine Maria dinanzi al suo altare, dove ella era stata rapata e velata, lì attese in profonda e commossa meditazione fino all'ora del pranzo. mentre San Francesco fece apparecchiare la mensa in sulla terra come era uso fare. Continuano i fioretti e, fatta l'ora di desinare, si pongono a sedere insieme Santo Francesco e Santa Chiara e uno degli compagni di Santo Francesco e la compagna di Santa Chiara, e poi tutti gli altri compagni s'acconciarono alla mensa umilmente. E per la prima vivanda Santo Francesco cominciò a parlare di Dio sì soavemente, sì altamente e meravigliosamente, che discendendo sopra di loro l'abbondanza della divina grazia, tutti furono in Dio ratti. E stando così ratti con gli occhi e con le mani levate in cielo, gli uomini da Assisi e da Bettona e quei della contrada d'intorno vedeano che Santa Maria degli Agnoli e tutto il luogo e la selva che era allora allato al luogo ardeano fortemente, e parea che fosse un fuoco grande che occupava la chiesa, il luogo e la selva insieme. Per la qualcosa gli ascesani con gran fretta corsono laggiù per spegnere il fuoco, credendo veramente che ogni cosa ardesse. Ma giungendo al luogo e non trovando ardere nulla, entrarono dentro e trovarono Santo Francesco con Santa Chiara, con tutta la loro compagnia, ratti in Dio per contemplazione e sedere intorno a quella mensa umile. Di che essi certamente compresero che quello era stato fuoco divino e non materiale, il quale Dio aveva fatto apparire miracolosamente a dimostrare e significare il fuoco del divino amore, del quale ardeano le anime di questi santi frati e sante monache, onde si partirono con grande consolazione nel cuore loro e con santa edificazione. Poi, dopo un po' di tempo, San Francesco e Santa Chiara, insieme con gli altri, tornarono in sé e, confortati del cibo spirituale, poco si curarono del cibo corporale. E così, dopo pranzo, Santa Chiara ritornò a San Damiano e le suore, vedendola, furono felicissime. Siamo contente che sei tornata, perché temevamo che Santo Francesco ti avesse mandata a reggere qualche altro monastero, come aveva fatto con abbadessa suora Agnese a reggere il monastero di Monticelli di Firenze. Eravamo tutte in ansia e abbiamo pregato la Vergine Maria che ti lasciasse con noi. Ma questa, sorelle, è stata una vostra pia fantasia. Voi sapete che, anche se avessi dovuto farlo, non sarei mai partita prima di avervi salutate una a una. Infatti, San Francesco aveva detto diverse volte a Santa Chiara: apparecchiati, se bisognasse che io ti mandassi in alcuno luogo. Padre, io sono sempre apparecchiata ad andare dovunque voi mi manderete. Chiara fu un'interprete fedele e umile della raccomandazione cara a Francesco riguardo alla santa obbedienza. Lei stessa predicava alle sue consorelle costantemente questa virtù, che era seconda solo al voto di povertà. Un giorno il Papa in persona volle visitare Chiara, che, saputo della visita, fece apparecchiare con grande cura la mensa con del pane, affinché il Santo Padre lo benedicesse, che però si rifiutò di farlo, anzi le disse: suora Chiara fedelissima, io voglio che tu benedica questi pani e tu faccia sopra di essi il segno della croce di Cristo. Santissimo Padre, perdonatemi, che io sarei degna di troppo grande rimprovero se innanzi al vicario di Cristo io, che sono una vile femminella, presumessi di fare cotale benedizione. A ciò che questo non sia imputato a presunzione, ma a merito d'obbedienza, io ti comando per santa obbedienza che sopra questi pani tu faccia il segno della croce e benedicali nel nome di Dio. Chiara ubbidì, e in tutti i pani, miracolosamente, apparve un bellissimo segno della croce intagliato. Continuano i fioretti, e allora, di quei pani, parte ne fu mangiato e parte per miracolo riservati. E il Padre Santo, veduto che ebbe il miracolo, prendendo del detto pane e ringraziando Iddio, si partì, lasciando Santa Chiara con la sua benedizione. Prima di morire, San Francesco lasciò un vicario, frate Bernardo, come è descritto nei fioretti. Era frate Bernardo di tanta santità che Santo Francesco gli portava grande reverenza e spesse volte lo lodava. Essendo un dì Santo Francesco e stando divotamente in orazione, sì, gli fu rivelato da Dio che frate Bernardo, per mio volere, dovrà sostenere molte e diverse e ardue battaglie con i demoni. Continuano i fioretti, di che Santo Francesco, avendo grande compassione al detto frate Bernardo, il quale amava come suo figliolo, molti dì orava con lacrime, pregando Iddio per lui e raccomandandolo a Gesù Cristo che gli dovesse dare vittoria del demonio. E orando così Santo Francesco divotamente, Iddio un dì si gli rispose: Francesco, non temere però che tutte le tentazioni dalle quali frate Bernardo deve essere combattuto gli sono da Dio permesse a esercizio di virtù e corona di merito, e finalmente di tutti gli nemici avrà vittoria, però che egli è uno dei commensali del reame del cielo. Venendo Santo Francesco a morte, a modo di quel santo patriarca Jacob, standogli d'intorno gli divoti figliuoli addolorati e lagrimosi della partenza di così amabile padre, domandò: dov'è il mio primogenito? Vieni a me, figliolo, a ciò che ti benedica l'anima mia, prima che io muoia. Allora frate Bernardo dice a frate Elia in segreto, il quale era vicario dell'ordine: padre, vada alla mano diritta del santo a ciò che ti benedica. E ponendosi frate Elia dalla mano diritta, Santo Francesco, il quale aveva perduto il vedere per le troppe lacrime, puose la mano ritta sopra il capo di frate Elia e disse: questo non è il capo del primogenito, frate Bernardo. Allora frate Bernardo andò a lui dalla mano sinistra, e Santo Francesco allora cancellò le braccia a modo di croce, e poi pose la mano diritta sopra il capo di frate Bernardo e la manca sopra il capo del detto frate Elia e disse: frate Bernardo, benedicati il Padre del nostro Signore Gesù Cristo in ogni benedizione spirituale e celestiale in Cristo. Siccome tu sei il primogenito eletto in quest'ordine santo a dare esempio evangelico, a seguitare Cristo nell'evangelica povertà, imperò che non solamente tu desti il tuo e distribuisti interamente e liberamente agli poveri per l'amore di Cristo, ma ezian Dio, te medesimo, offeristi a Dio in quest'ordine in sacrificio di soavità. Sia il principale dei tuoi fratelli, e al tuo comandamento tutti gli frati obbediscano. Abbi licenza di ricevere a quest'ordine chiunque tu vorrai, e nessuno frate abbia signoria sopra di te, e siati licito d'andare e di stare dovunque ti piace. E dopo la morte di Santo Francesco, i frati amavano e riverivano frate Bernardo come venerabile padre. E prima di morire a sua volta, frate Bernardo, nell'ultima ora della morte, alzatosi con fatica dal suo giaciglio, disse: carissimi fratelli, io non vi vo dire molte parole, ma voi dovete considerare che lo stato della religione che io ho avuto, voi avete, e questo che io ora, voi avrete ancora, e trovo questo nell'anima mia, che per mille mondi eguali a questo io non vorrei non aver servito altro Signore che nostro Signore Gesù Cristo. Ed ogni offesa che io ho fatta m'accuso e rendo in colpa al mio Salvatore Gesù Cristo e a voi. Priegovi, fratelli miei carissimi, che voi v'amiate insieme. E poi spirò serenamente. Avete ascoltato la settima. San Francesco, il poverello di Assisi. Ottava puntata. I fioretti, la conversione di Chiara. Di Paolo Brunatto. San Francesco era determinato nelle sue decisioni, ma anche docile e comprensivo e capace di cambiare opinione se i suoi frati lo convincevano, come nel caso di frate Masseo raccontato nei fioretti. Santo Francesco, volendo umiliare frate Masseo a ciò che per molti doni e grazie che Dio gli dava, non si levasse in vanagloria, ma per virtù della umiltà crescesse con essi di virtù in virtù, una volta che egli dimorava in luogo solitario con quei suoi primi compagni veramente santi, dei quali era il detto frate Masseo, disse un dì a frate Masseo dinanzi a tutti i compagni: «Oh frate Masseo, tutti questi tuoi compagni hanno la grazia della contemplazione e dell'orazione, ma tu hai la grazia della predicazione della parola di Dio a soddisfare al popolo. E però io voglio, a ciò che costoro possano intendere alla contemplazione, che tu faccia l'ufficio della porta e della limosina e della cucina. E quando gli altri frati mangeranno, e tu mangerai fuori della porta del luogo, sicché quelli che verranno al luogo, innanzi che picchino, tu soddisfaccia loro di qualche buone parole di Dio, sicché non bisogni niuno andare fuori allora altri che tu. E questo fa per lo merito di santa obbedienza». Allora frate Masseo si tolse il cappuccio e inchinò il capo. E umilmente obbedì per molti giorni, facendo l'ufficio della porta, della elemosina e della cucina. E continuano i fioretti. Di che li compagni, come uomini illuminati da Dio, cominciarono a sentire nei cuori loro grande rimordimento, considerando che frate Masseo era uomo di grande perfezione, come egli, no, o più, e a lui era posto tutto il peso del luogo, e non a loro. Per la qualcosa, egli, no, si mossono tutti di uno volere, e andarono a pregare il Padre Santo che gli piacesse distribuire fra loro quegli uffici. Udendo cotesto, Santo Francesco, chiamato frate Masseo, così gli disse: «Frate Masseo, I tuoi compagni vogliono fare parte degli uffici che io t'ho dati, e però io voglio che li detti uffici si dovidano. E frate Masseo, con grande umiltà e pazienza, disse: Padre, ciò che mi imponi, o di tutto o di parte, io il reputo fatto da Dio tutto. E conclude il capitolo dei fioretti. Allora Santo Francesco, vedendo la carità di coloro e l'umiltà di frate Masseo, fece loro una predica meravigliosa e grande della santissima umiltà, ammaestrandoli che quanto maggiori doni e grazie ci dà Dio, tanto noi dobbiamo essere più umili, imperocché senza l'umiltà nessuna virtù è accettabile a Dio. E fatta la predica, distribuì gli uffici con grandissima carità. Ma Francesco era compassionevole non solo con gli esseri umani, ma anche con gli animali, e ancora si può leggere nei sublimi fioretti. Un giovane aveva preso un dì molte tortole e portavale a vendere. Iscontrandosi in lui, Santo Francesco, il quale sempre aveva singolare pietà agli animali mansueti, riguardando quelle tortole con l'occhio pietoso, disse al giovane: «Oh, buono giovane, io ti prego che tu me le dia, e che uccelli così innocenti, le quali nella scrittura sono assomigliate alle anime caste, umili e fedeli, non vengano alle mani dei crudeli che li uccidono». Di subito colui, ispirato da Dio, tutte le diede a Santo Francesco, ed egli, ricevendole in grembo, cominciò a parlare loro dolcemente. «Oh, sirocchie mie, tortole semplici, innocenti, caste, perché vi lasciate voi pigliare? Or ecco, io vi voglio scampare da morte e farvi nidi, a ciò che voi facciate frutto e moltiplichiate, secondo i comandamenti del nostro Creatore». E va Santo Francesco e a tutte fece nido. Ed elle no, usandosi, cominciarono a fare uova e figliare dinanzi agli frati. E così domesticamente si stavano e usavano con Santo Francesco e con gli altri frati, come se fossero state galline sempre nutricate da loro. E al giovane che gliele aveva date, disse Santo Francesco: «Figliuolo, tu sarai ancora frate in questo ordine e servirai graziosamente a Gesù Cristo». Così si conclude questo capitolo dei fioretti. E così fu. Imperò che il detto giovane si fece frate e vivette nel detto ordine con grande santità. Francesco non amava che i suoi frati esagerassero troppo nella contemplazione a scapito di altre attività. Voleva che l'apostolato si manifestasse in modo concreto. Voleva che i suoi fraticelli, oltre a pregare, predicassero. Non tollerava estremismi mistici, era un uomo pratico e moderato. Ne è la prova questo significativo capitolo dei fioretti. Si legge infatti nei fioretti: «Era il detto frate Ruffino, per continuova contemplazione, sì assorto in Dio, che quasi insensibile e mutolo diventò. Radissime volte parlava, e appresso non aveva la grazia né l'ardire né la facundia del predicare. Francesco gli comandò una volta che predicasse al popolo ciò che Dio gli ispirasse. Di che frate Ruffino così rispose: Padre reverendo, io ti prego che tu mi perdoni e non mi mandi, imperocché, come tu sai, io non ho la grazia del predicare e sono semplice e idiota. Perocché tu non hai obbedito prestamente, ti comando per santa obbedienza che, ignudo come nascesti, con le sole brache tu vada ad Assisi ed entri in una chiesa e così ignudo predichi al popolo». Ruffino a questo punto ubbidì e si spogliò. Ed entrato in chiesa e fatta la riverenza all'altare, salì sul pergamo e cominciò a predicare. E tutti in chiesa, dai fanciulli agli uomini, cominciarono a ridere e dicevano: «Or ecco che costoro fanno tanta penitenza che diventano istolti e fuori di sé. E in questo capitolo dei fioretti si può leggere: in questo mezzo, Santo Francesco, ripensando della pronta obbedienza di frate Ruffino, il quale era dei più gentili uomini d'ascesi, e al comandamento duro che gli aveva fatto, cominciò a riprendere se medesimo dicendo: «Onde a te tanta presunzione, figliuolo di Pietro Bernardone, vile omicciuolo, a comandare a frate Ruffino, il quale è dei più gentili uomini d'ascesi, che fa degnudo a predicare al popolo siccome pazzo? Per Dio, che tu proverai in te quello che tu comandi ad altri». E di subito, in fervore di spirito, si spoglia egli ignudo semigliantemente e vassene ad Assisi, e mena seco frate Leone, che recasse l'abito suo e quello di frate Ruffino. E veggendolo similmente, gli assisani sì lo ischernirono, reputando che egli e frate Ruffino fussero impazzati per la troppa penitenza. Entra Santo Francesco nella chiesa dove frate Ruffino predicava queste parole: «Carissimi, fuggite il mondo e lasciate il peccato. Prendete l'altrui se voi volete schifare l'inferno. Servate i comandamenti di Dio, amando il Dio e il prossimo. Se voi volete andare al cielo, fate penitenza. Se voi volete possedere il reame del cielo». E allora Santo Francesco monta in sul Pergamo, ignudo, e cominciò a predicare così meravigliosamente dello dispregio del mondo, della penitenza santa, della povertà volontaria, del desiderio del reame celestiale e della ignudità e obbrobrio della passione del nostro Signore Gesù Cristo, che tutti quelli che erano alla predica, maschi e femmine in grande moltitudine, cominciarono a piangere fortissimamente, con mirabile devozione e compunzione di cuore. E non solamente ivi, ma per tutto Assisi fu in quel dì tanto pianto della passione di Cristo che mai non v'era stato somigliante. E così, edificato e consolato il popolo dello atto di Santo Francesco e di frate Ruffino, Santo Francesco rivestì frate Ruffino e sé, e così rivestiti si ritornarono al luogo della Porziuncola, lodando e glorificando Iddio. «Ringraziamo Iddio che ci ha dato la grazia di vincere noi medesimi per dispregio di sé e edificare le pecorelle di Cristo con buon esempio e dimostrare quanto è da dispregiare il mondo». E in quel dì crebbe tanto la devozione del popolo in verso di loro che beato si reputava chi poteva toccare loro l'orlo dell'abito. Questo episodio, narrato nei fioretti, è la chiara dimostrazione che San Francesco sapeva ritornare sui suoi passi, non era rigido né inflessibile nelle sue decisioni, sapeva riconoscere umilmente i suoi errori e amava con grande tenerezza i suoi frati. Soffriva molto ogni volta che, per raddrizzare le loro deviazioni dalla retta via, si sentiva in dovere di punirli. E un altro straordinario fioretto di San Francesco racconta: in quel tempo usavano nella contrada tre rinomati ladroni, i quali facevano molti mali, i quali vennero un dì al detto luogo dei frati e pregavano il detto frate Angelo guardiano che desse loro da mangiare. E il guardiano rispose loro in questo modo, riprendendoli aspramente: «Voi, ladroni e crudeli omicidi, non vi vergognate di rubare le fatiche altrui, ma iziendio, come presuntuosi e sfacciati, volete divorare le limosine che sono a servi di Dio, che non siete pur degni che la terra vi sostenga. Però che voi non avete niuna reverenza né a uomini né a Dio che vi creò. Andate dunque per i fatti vostri, e qui non apparite più». Di che coloro, turbati, si partirono con grande sdegno, Ed ecco Santo Francesco tornare di fuori con la tasca del pane e un vasello di vino che egli e col compagno avevano accattato. E recitandogli il guardiano come egli aveva cacciati, Santo Francesco forte lo riprese dicendogli: «Tu ti sei portato crudelmente, imperò che i peccatori meglio si riducono a Dio con dolcezza che con crudeli riprensioni. Il nostro Maestro Gesù Cristo, il cui Evangelio noi abbiamo promesso d'osservare, dice che non c'è bisogno ai sani il medico, ma agli infermi, e che non era chiamare i giusti, ma i peccatori a penitenza, e però egli spesse volte mangiava con loro. Io ti comando per santa obbedienza che immantinente tu prenda questa tasca del pane che io ho accattato e questo vasello del vino e va loro dietro dietro sollecitamente per monti e per valli tanto che tu li trovi e presenta loro tutto questo pane e questo vino da mia parte e poi ti inginocchia dinanzi a loro e di loro umilmente tua colpa della tua crudeltà e poi li prega da parte mia che non facciano più male ma temano il Dio e non offendano il prossimo e se egli faranno questo io prometto loro di provvederli nei loro bisogni e di dar loro continuamente da mangiare e da bere». E come piacque a Dio, mangiando questi ladroni la limosina di Santo Francesco, cominciarono a dire insieme: «Guai a noi, miseri sventurati! Come dure pene dello inferno ci aspettano, i quali andiamo non solamente rubando i prossimi e battendo e ferendo, ma zendio uccidendo! Veramente questi frati sono santi di Dio, i quali meritano il paradiso, e noi siamo figliuoli della eterna perdizione». Queste e somiglianti parole, dicendo l'uno di loro, dissono gli altri due: «Per certo tutto è il vero, ma ecco, che dobbiamo noi fare?» «Andiamo a Santo Francesco, e se egli ci dà speranza che noi possiamo trovare misericordia da Dio dei nostri peccati, facciamo ciò che egli ci comanda e possiamo liberare le nostre anime dalle pene dell'inferno». E così, tutti e tre accordati, se ne vengono in fretta a Santo Francesco e dicogli: «Padre, noi per molti scellerati peccati che noi abbiamo fatti, non crediamo poter trovare misericordia da Dio. Ma se tu hai niuna speranza che il Dio ci riceva misericordia...» «Ecco, noi siamo apparecchiati a fare ciò che tu ci dirai e fare penitenza con teco». Così i detti tre ladroni renunziarono al demonio e Santo Francesco li ricevette nell'ordine. Ma prima di concludere questo viaggio nella spiritualità francescana, facciamo un altro passo indietro e cerchiamo di ricostruire come avvenne l'incontro fra Francesco e Chiara. Tutta Assisi parlava delle bizzarrie del giovane Francesco, che viveva in povertà con i compagni laggiù nella pianura e che spesso saliva in città a predicare il Vangelo con il permesso del vescovo, augurando a tutti pace e bene. Nella primavera del 1209 aveva predicato perfino nella cattedrale di San Rufino, dove nell'attigua piazza abitava la nobile famiglia degli Affreduccio, e sicuramente in quell'occasione, fra i fedeli che ascoltavano, c'era la giovanissima figlia Chiara. «Ringraziate Dio, il quale ha voluto per le bocche dei semplici rivelare i tesori della divina sapienza. Imperò che Dio è colui il quale apre la bocca ai mutoli e le lingue dei semplici fa parlare sapientissimamente. Mia amica Bona, le parole di Francesco mi hanno sconvolta. Non avevo mai sentito niente di simile». «Hai ragione, Chiara. Lui ti tocca il cuore quando predica». «Gesù probabilmente parlava così alla gente della Palestina. I suoi ideali di povertà sono proprio quello che manca alla nostra madre Chiesa. Lo voglio incontrare. Mi devi aiutare, amica cara». «Intanto cominciamo a mandargli del denaro che lui distribuirà ai poveri». «È una buona idea. Lui saprà farne un uso saggio». Ma Chiara non si contentò di fare offerte in denaro al poverello di Assisi e decise di sfuggire al matrimonio predisposto dalla sua famiglia per seguire il suo desiderio di dedicare la sua vita a Dio. Aveva 18 anni appena. E nella notte seguente la Domenica delle Palme del 1211, Chiara abbandonò di nascosto da una porta secondaria il palazzo dove viveva con la sua famiglia, i nobili Affreduccio, e correndo al buio attraverso i campi giunse fino alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola. Quando Chiara arrivò alla Porziuncola: Francesco, voglio diventare una tua discepola. Sono qui perché tu mi inizi a Dio. A quel Dio che lui aveva trovato e col quale conviveva. Francesco condusse Chiara davanti all'altare della Vergine, le tagliò la bionda e lunga capigliatura, che ancora oggi conservata, le dette una tunica e la consacrò al Signore. Chiara, d'ora in poi tu sei consacrata al nostro Signore Gesù Cristo. Sei la sua sposa. Voglio accompagnarti al monastero delle Benedettine a Bastia Umbra, che non è molto lontano da qui, per sottrarti all'ira dei tuoi parenti. Sembra che i genitori di Chiara, dopo un drammatico colloquio con la figlia, che mostrò loro il capo senza capelli, si convincessero a lasciarla andare. Successivamente Chiara, che fu raggiunta dalla sorella Agnese, assieme alle compagne che si erano unite a lei, si spostò, dopo alterne vicende, nel piccolo convento annesso alla chiesetta di San Damiano, che era stata restaurata da Francesco, e dove nel 1215, a 22 anni, Chiara fu nominata badessa. Francesco dettò alle povere donne recluse di San Damiano, come lui le chiamava, il nome Clarisse fu preso dopo la morte di Santa Chiara, una prima regola di vita, sostituita più tardi da quella della stessa santa, che, affascinata dalla predicazione e dall'esempio di Francesco: voglio dare vita a una famiglia di claustrali povere, immerse nella preghiera, per noi e per gli altri. Chiamate popolarmente Damianite e da Francesco povere dame, saranno poi per sempre note come Clarisse. A San Damiano Chiara fu raggiunta dall'altra sorella Beatrice e dalla madre Ortolana, oltre a gruppi di ragazze e donne, e presto furono una cinquantina. Qui trascorse 42 anni, di cui 29 cadenzati dalla malattia. Il carisma di Chiara si manifestò entro le mura del monastero in contemplazione e preghiera, seguendo in parte il modello benedettino da cui si differenziò per la ferma e coraggiosa difesa della povertà. Solo abbandonando i beni materiali e affidandosi a Dio, Chiara si sentì libera di percorrere il suo cammino religioso. Una vita scandita dal silenzio, dalla preghiera, dalla ricerca continua di altissima povertà. Chiara morì a San Damiano, fuori le mura di Assisi, l'11 agosto del 1253, a 60 anni. E poco tempo dopo la sua morte, Papa Alessandro IV, ad Anagni, la proclamò santa. Chiara e le sue consorelle, le Clarisse, saranno l'incarnazione al femminile dell'ideale francescano, a cui si associeranno tante successive congregazioni di religiose.